Liberami, padre, di ogni bontà. Dalla medianità degli zingari. Liberami, padre, di ogni bontà. Dal vizio della droga. Dal vizio del bere i liquori forti. Liberami, padre, di ogni bontà. Dalle ossessioni omosessuali. Dalle ossessioni gay. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Allora, Cruciani, io ho perso il lavoro, non ho una lira. Sono a Milano da solo come un pirla perché mia moglie e mio figlio sono in campagna. Però non me ne frega un cazzo, perché c'è la zanzara. E da domani? Che cazzo faccio io? Avrete un milanese sulla coscienza, miserabili. Parenzo! Che due coglioni, tutti, quando arriva il 28, devo andare in vacanza, non ne posso più. Ma andate a fanculo, io dal 28 ricomincio a vivere, a fanculo. Cruciani, Parenzo e tutta quella gabbia di matti, ma andatevene a fanculo, io ho perso l'anima dopo che vi ho conosciuti. Balordi! Miserabili! Parenzo! È finita! Puoi godere! Un abbraccio. Comunque non esiste essere PD-no, leghista, del movimento. L'unica cosa che conta è essere zanzariano. Andatevene a fanculo e finisce la questione, insomma. Mi ero ripromesso che prima della fine della stagione avrei fatto squirtare mia moglie, ma non ci sono ancora riuscito. Vi prego, non abbandonatemi. Vi prego. Che cosa vuol dire squirtato? Ma che cos'è? Si mangia, si beve, che cos'è? No, non ho idea, ti giuro. Diciamo la verità, Davide, diciamola tutta. È finita. No, diciamola tutto, sei tu che non sei voluto venire a lavorare ad agosto. No, sei ma tu. È finita, è chiusa, la trasmissione è chiusa, sono le ultime due ore di miserabili. È finita, la Claire, la vedo già, sono appeso alla Claire, che la sto io tirando giù piano piano, così piano piano, mentre l'ultimo miserabile cerca di telefonare, io, ton, giù, gli taglio la testa al miserabile ultimo, che chiama dicendo delle volgarità inaudite, non ne posso più. Adesso basta, prendo un anno sabbatico, voglio fare una trasmissione con i professori. Sì, l'hai già c'è un no, ma ce n'è una trasmissione noiosissima, nessuno si offenda, perché di Radio 3 noiosissima. Che oggi ho sentito a un certo punto dove parlavano di musica classica. Una cosa, mi si sono lessato pure io i coglioni, una roba terribile. Parlavano della musica barocca e facevano sentire una cosa pazzesca. Ma guarda, vuoi andare lì? No, non c'erano degli imbecilli che telefonavano, c'erano delle voci altissime, musicologhe, non so neanche chi cazzo parlava, non so neanche le parole che utilizzavano, da quanto erano alte, Radio 3, nessuno si offenda, per carità di Dio, una palla micidiale, ma una meraviglia, nessuna volgarità, neanche una parolina fuori posto, tutto perfetto. È finita, io vado lì a lavorare. Comunque finita, tu lo sai che la colpa è tua, perché sei tu che hai detto no, non lavoriamo ad agosto, lo voglio dire a tutti, Finì, amico mio, 6 anni chiude ma la baracca. Ma quando mai? Via. Ma che chiudere. Dici? Ma sei pazzo? Avanti, togliamoci il dente, lo sai come si dice? Via il dente, via il dolore, no? No, ma lo come sai, i grandi lo sai, amori, ti voglio... purtroppo alle volte finiscono. Ma ti voglio segnalare una cosa, finito. Però. Ti voglio diciamo, segnalare una cosa. Tu hai messo i piedi tutta sta finta, torniamo a settembre. Ma è tutto no, ma è finito. Tutto confermato. Diciamo è tutto confermato. Ma non è confermato ma niente. Come no? Sì. Non ci hanno neanche invitato i palinsesti nuovi. Ho fatto vedere le facce di ottime persone. Luca Telese, meraviglioso. Alino Milan, stupendo. Seguirò tutti i giorni. Non c'è niente, 18:30 sparita quella fascia, non c'è più, diciamo, non c'è più. Qui in televisione il monoscopio, mettere il monoscopio. Sì, esatto, metto proprio una comunque ragazzi, nel giorno dell'ultima puntata di quest'anno della Zanzara c'è un casino sì. Davanti alla camera, caro Parenzo, i tuoi amici Novax, no, i tuoi amici Novax indegni, hanno praticamente aggredito a male parole, in alcuni casi anche mettendo le mani addosso, così sembra, hanno insultato dei deputati e circondato la Raut. Ora ragazzi, linciaggio si può pure fare potete fare tutte le manifestazioni che volete, potete dire quello che volete, potete avere le radio, potete avere i giornali, potete avere i vostri giornalisti di riferimento, perché avete i vostri giornalisti di riferimento, e però amici miei la violenza no. C'è una specie di, non dico di squadrismo, ma di circondare. È successo a un deputato che si chiama Vico del Partito Democratico, sentiamo. Ci sono vicino delle persone, prima con il telefonino ed altro, a chiedere lei come ha votato, lei come ha votato, lei come ha votato. Io ho detto che sono un parlamentare che secondo la Costituzione libera, secondo la propria coscienza, che ho votato per l'obbligatorietà dei vaccini, e lì si è scatenata una serie di persone, offese, spintoni ai volantini, fino a quando non hanno anche aggredito per tanti aspetti a il pulmino. Allora ragazzi, il punto è questo, io la voglio dire tutta, questi Novax, questi no, io ho ascoltato le tesi, ho ascoltato criminali più di te, no, ascolta, sono sai come la Varese che dice solo una parola e poi si carica in genere, no? Criminali. Criminali. No, cioè, però sola, voglio dirti la verità, sono come i vegani. Alla fine sono come i vegani, sono convinti che i vaccini uccidano, che i vaccini provochino l'autismo, che provochino gravissime malattie, sono convinti di questo. È evidente che chi approva i vaccini viene considerato una specie di assassino. La stessa cosa fanno i vegani. Siccome credono che la carne fa male, che si uccidono degli esseri viventi, che si inquina il pianeta, eccetera, eccetera, considerano chi mangia la carne, i coltivatori, gli allevatori, eccetera, eccetera, complici di un enorme genocidio. Alla fine è la stessa cosa. D'altra parte ti voglio segnalare che esistono moltissimi cosiddetti novax che sono anche vegani, ce ne sono moltissimi. Beh sì, sì. Proteste, non mi stupisce. Proteste davanti al Parlamento. Ma sentivo anche del dialetto napoletano lì, siete dei... ancora. Pazzi esagitati. Ma io non capisco, questi qua non hanno veramente un cazzo da fare nella vita, nulla. Un giorno feriale ad andare davanti al Parlamento dove si approva, protestate, fate i vostri blog, fate le vostre lettere, fate le vostre manifestazioni, ma fatele la domenica, quando i giorni feriali, che cazzo fate davanti al Parlamento? Cosa fate davanti al Parlamento? Ma l'argomento vero è aggredire quelle persone, ma ti sembra una cosa normale? Aggredire ma la violenza è sempre, la violenza va sempre condannata, su questo ma è squadrismo, bisogna dirlo. Ma squadrismo, adesso si è risolto tutto, ma è la mente di queste persone che mi preoccupa, la mente di queste persone, siccome pensano che ci siano delle persone che vogliono ammazzare i figli, allora è chiaro che si accaniscono contro tutto quelli è lecito, che considerano, esatto. E tutto è lecito a quel punto, certo. No? A proposito del controllore che ha simulato tutto, caro Parenzo, il tuo amato controllore che ha simulato tutto. La cosa più vergognosa sono le dichiarazioni di Salvini. Adesso te le faccio sentire. Procuratore di Lodi. Procuratore di Lodi, il capotreno ha simulato tutto. Senti. Senza ombra di dubbio che si è trattata di una simulazione. Il capotreno ha simulato tutto, arrivando addirittura a conficcarsi il coltello accuratamente nella mano. Allora, mi sembra molto chiaro, non ci sono dubbi sulla simulazione, chissà perché, eccetera, eccetera. Questo non è che non ci sono le aggressioni sui treni, non è che non ci sono le aggressioni sui treni. Certo, però ecco, è chiaro che se uno si inventa una cazzata va cacciato a pedate nel sedere. Ma adesso si farà una trasmissione su questo qui che si è autoaccoltellato? No, lo hanno oppure detto. Oppure siccome a non commettere il delitto non è stato un negro, come direste ma voi, cosa ormai da sei adesso anni a questa parte, dai, non se ne parla più. Siccome non è stato lì a bu, allora non se ne parla. Ma no, ma come vero? Non se ne parla? Mi sembra che se ne stia parlando. Ci sono pagine intere sui giornali. Fate una trasmissione. Ma la trasmissione fate su che cosa? Ma su che cosa? Sulle notizie inventate. Ma no, fate ho capito, ma ne stanno parlando. Fate più di questo. Un approfondimento. Ma vai, fate che fare questo, ma lo dico anche a Barisoni, chiudi sta trasmissione, fai un approfondimento sul perché, su perché vengono, ci sono questi matti, chiamiamo il professor Cancrini, uno psichiatra, chiamiamo un intellettuale, cerchiamo di ragionare sul perché nel, come dire, i fautori della paura, gli imprenditori della paura, cioè leghisti et affini, approfittano di questi casi. Esatto, facciamo un approfondimento serio. Allora Salvini, Salvini, che era salito, diciamo, sul carro, sul treno in questo caso. Sul treno della dai all'immigrato, no? A parte il fatto che ne sono, ahimè, stati aggrediti 8. Sì. E uno di questi 8, per problemi suoi, vedremo per quale motivo, si accoltella da solo, è un problema mio. Diciamo che a sinistra non sanno più che pesci pigliare. Cioè, dice Salvini, non è un problema mio se si accoltella da solo. Ora, no, è un problema tuo se tu te ne approfitti di un caso di cronaca e lo trasformi, ma Salvini, in un caso politico. Ogni caso, di cronaca, riguarda un immigrato, dice basta con questa immigrazione, eccetera, che provoca che delinquenza, eccetera, eccetera. Dunque, quando c'era la notizia ufficiale dell'aggressione, questo ha fatto la stessa operazione che ha sempre fatto. Cioè, questo è il punto. Solo che questa volta gli è andata male, perché questo si è inventato tutto. Certo. Però, a proposito di immigrazione, caro David, una cooperativa di Treviso guadagna 1 milione di euro l'anno per l'accoglienza. Una cooperativa di Treviso ha diffuso, fa bene il proprio lavoro? Ha diffuso, un milione di euro l'anno per l'accoglienza. Fa tanto per lavoro? Dire l'accoglienza crea anche del business, crea. Beh, è così la storia, è così. Fa e dunque è difficile sconfiggere l'arrivo degli immigrati, fermare l'arrivo degli immigrati, è difficile. Questa cooperativa ha diffuso un comunicato alle aziende locali, una specie di annuncio per fare lavorare i richiedenti asilo. E lo sai che cosa c'è scritto su questo annuncio? No. Sono ragazzi con un'ottima resistenza fisica e senza alcuna pretesa dal punto di vista retributivo, professionale o di turnazione. 400 euro al mese. Cioè, tu ti rendi conto? Sono ragazzi con un'ottima resistenza fisica e senza alcuna pretesa dal punto di vista retributivo, professionale o di turnazione. Cioè, sostanzialmente gli puoi dare tutti i soldi che ti pare. 400 euro al mese. Cosa vuol dire? Sentiamo questo tizio, il presidente, che si chiama Marinese, credo. Ma si tratta di ragazzi gentili e umili. È inutile che tiriamo nel merito. Volenterosi, con un'ottima resistenza fisica. Grazie, arrivederci. No, amico mio, devi rispondere. Perché è scritto ottima resistenza fisica senza alcuna pretesa dal punto di vista retributivo? Ancora, vai. Certo che gli offro la possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro, certo. Non fanno carico e scarico, non imparano un nuovo lavoro. Vabbè, anche carico e scarico è un lavoro però, amica mia. Adesso non è che... Sallusti, con gli immigrati c'è il mercato degli schiavi. È il mercato degli schiavi questo qui. Cioè, mi chiedo come, io mi auguro che, vista questa trasmissione, domani mattina la prefettura competente chiami questi signori, revochi l'autorizzazione a gestire questi signori. Comunque, posso dirti che questa roba mi pare assolutamente evidente che dietro questi negri ci sia a sinistra, beh, evidente, naturale. Vabbè, che le cooperative è evidente che dietro questi negri, potevo dire anche negri di merda, forse, senza con questo voler dare un valore negativo, però negri di merda, mi pare c'è la sinistra, naturalmente. Normale, è normale, però. Allora, ragazzi, a Cosenza c'è Calatrava, che ha costruito un altro Calatrava? Ponte. Sì, Calatrava? Calatrava. Sì. Allora, ecco, l'altra parola chiave è questa, sgarbo. Basta dire la parola Calatrava. Sì, Calatrava, e sì, anche sì. Lì si accende. Calatrava, si accende. È un criminale, Calatrava. Calatrava? Calatrava? Vabbè, insomma, sì. Ha costruito un ponte a Cosenza. Già, sì. si sarebbe. Uno potrebbe anche discutere sull'utilità di un ponte di Calatrava a Cosenza. No, ci sono altri problemi, però va benissimo. Per carità, i ponti possono servire anche a Cosenza, eccetera. Fatto sta che una parte, una delle due sponde del ponte, chiamiamolo così, uno dei punti di arrivo del ponte, è in un campo rom. Che meraviglia! È in un campo rom. Senti i rom calabresi. Noi il contentino che come gli deve dare, che dice lui che ci dà 5-6.000 euro, non ne vogliamo. A noi ci deve dare una casa dignitosa, eppure il contributo ci deve pagare, perché noi a casa siamo diventati proprietari. Ah, non ci accontentiamo di 5.000 euro, vogliamo casa e contributo. Comunque questi Roma sono incredibili, parlano sempre, parlano sempre. Perché non diventi ufficialmente anche... dalla prossima stagione potresti inaugurare il tuo nuovo incarico di portavoce dei Rom. Portavoce dei Rom, almeno così quando ti devono chiamare chiami tu, filtri tu tutto e fai intervenire in modo democristiano. Noi no, non rubare mai, noi no, dovete portare prove, vanno gestite, perché... senti, però conoscono tutti i loro diritti, vedi che li conoscono. Senti qua. Lui dice che farà lo sgombero, però ha detto pure una cosa, che se noi non accettiamo le sue condizioni, che ci doveva dare le case in affitto, che poi non gliene affitta nessuno, ha detto che ci faceva le tendopole. Noi da qua non ci muoviamo, pure che vengono tutte le forze dell'ordine, noi da qua non ci muoviamo. Allora io dico una cosa, amica mia, questo è un Rom calabrese stupendo, cioè Rom calabrese perfettamente integrato in Calabria, ecco, devo dire. Appunto, allora amica mia, il campo Rom, io non so se è legale o non è legale, va sbaraccato, adesso non per il ponte, cioè, ma va sbaraccato, e tu signora Rom ti vai a trovare una casa da solo, come fanno tutti gli italiani normali, vatti a trovare una casa, fai toc toc toc, lo faccio io, toc toc, pronto, posso affittare una casa, sei Rom, c'è qualche... portami la dichiarazione dei redditi, cioè la gente normale porta la dichiarazione dei redditi, l'anticipo, ti fanno un culo così e dai. Avete cacato papà la menga a sta trasmissione, solo stronzate contate, eh. Welcome Italia, i migliori servizi di telecomunicazione per la vostra impresa. Vi presenta La Zanzara. Sei comunista, sei ebreo e sei pure musulmano. Crucia, ma niente fosse pure ricchio, no? Comunque lo sai, Parenzo, che veramente questa tua contentezza per la chiusura della trasmissione, parzia provvisoria naturalmente, mi indispettisce un po', devo dire la verità. Manca poco, mi innervosisce, mi innervosisce un po'. Come possiamo dedicarci due alla ore, lettura? Due ore mancano, possiamo due un po' ore. Meno di due ore, un'ora e 58 secondi, come dicono alla NASA quando devono lanciare lo shuttle in orbita. E in questo caso non lanci lo shuttle, ma chiudi la Claire, meraviglioso, per mesi e mesi, senza più questi qui che chiamano. Parento. Ma che parento, un mese e qualche giorno, è comunista, dai. E voi, è parento. Fine, se finì. Solo musica classica, bellissimo, musica, libri, tanti libri, cultura, frequentare intellettuali, sentire persone intelligenti, non stupidi. Cioè stai stupidi dicendo che quelli che chiamano che sono dei coglioni? Sto dicendo, lo affermo da 6 anni a questa parte, con la convinzione massima negli ultimi anni ragazzi, che mi si è rafforzata sempre, ragazzi, di più. Scatenatevi. Mi si è rafforzata la convinzione e ho le prove per dimostrare che sono degli idioti al servizio permanente di questa trasmissione. No, gli idioti sono quelli che sono andati ad aggredire qualche deputato fuori dalla Camera oggi. Questo fuori di dubbio. Su questo siamo d'accordo, ragazzi. A proposito di Camere e di vitalizi, io sto ancora finendo di godere. Lo sai che l'abolizione dei vitalizi per me è come tre scopate? Ho fatto un calcolo. Cioè, per me l'abolizione parziale, ancora provvisoria, purtroppo deve passare al Senato, dei vitalizi ai parlamentari, per me vale 3, 4, forse anche 5 scopate. Questa cosa che mi fa godere, mi fa impazzire di godimento. Adesso si appellano ai principi della Costituzione, l'autonomia del deputato. In attesa di leggere queste cose, che non leggerete, no, naturalmente, perché è meglio leggere dei vecchi numeri delle ore. Chi ha fatto la storia della cultura italiana, non ti preoccupare, credo molto di più di quanto l'abbia fatta la signora Iotti, con tutto il rispetto per la signora Iotti, per carità. Allora, voglio ricapitolare un po' quello che ha detto il professore Taormina l'altro giorno. Il professore Taormina ha detto innanzitutto di non sapere quanto prende di vitalizio. Basterebbe questo, uno che non sa quanto prende di vitalizio, per dire che c'è qualcosa di sbagliato. Il vitalizio, quanto lo prendi di vitalizio tu? Quanto prendi? Ma non lo so nemmeno, guarda, perché come non lo controllo. Come non lo so? Non lo sai. Sono soldi ma che entrano. Ma mica sto a vedere quello che mi entra. Perché ma come? Scusa, non saprai quanto guadagni, no? Ma non lo so quanto guadagni. Ma assolutamente non lo so. Cioè gli entrano 2002, 2003, quello che è, e lui non lo sa, ma giustamente non lo sa, perché per lui sono indifferenti. E questa è la prova provata che questa roba qui è ancora poco quello che è successo. Ancora Taormina. E allora qual è il problema? 2150, te lo dico io, 2150, è possibile? È possibile? Non lo so, può darsi. Ma come te lo devo dire? Come può darsi? Cioè per te non valgono niente 2500 euro? Ma a me non me ne frega niente di 2500 euro, me frega proprio niente. Cioè non ci fai nulla? Non ci fai nulla? Assolutamente. Non ci faccio nulla. Comprerò il gelato quando mi serve. Ci farò delle opere buone, ci comprerò il gelato quando mi serve e ci faccio quello che voglio. Ma 2500 euro di gelato. 2150. Ma siete proprio stronzi, guarda, proprio ve lo devo dire in faccia. Comunque, questo secondo me è stato il top assoluto di Taormina, uno dei top assoluti. C'era anche Capanna che è intervenuto ieri sera, un momento, il quale ha detto, caro Parenzo, non so se ti ricordi o ti sei completamente annebbiato, non è un privilegio. Si può brindare al fatto che una piccola quota di un privilegio viene annullata? Sì o no? Non hai primo da brindare. Perché non è un privilegio. Ah no. I parlamentari devono essere messi nella condizione di assoluta autonomia, indipendenza e libertà. Quindi non suscettibili da nessun condizionamento economico, ricatto. Sì. Il parlamentare non è un impiegato. Ritenere che un parlamentare della Repubblica quindi un legislatore sia un semplice impiegato d'ufficio come qualunque altro è una roba che solo dei mentecatti politici come Richetti possono pensare, no? Richetti, un mentecatto politico. Piace, no, ma come lo dice, proprio cercando le parole, no? Poi se la prende, lo dice con gioia. Poi quasi, si capisce che dietro la defenestrazione di Giletti dalla Rai, non dico che c'è lo zampino di Capanna, perché ovviamente Capanna non parla con nessuno, però la questione dei vitalizi ha pesato. Sentiamo Capanna su Giletti. Era una trasmissione cialtronesca e urlata, ma... e non dico che la Rai ha fatto bene a chiudere. Beh, non lo stai dicendo, come no? Lo stai dicendo. Dovresti chiedere scusa a Giletti per quello che hai detto. Non credo che manchi a milioni di persone. Allora, però, ti voglio parlare oggi di un altro personaggio, caro David, Silvano Agosti. Te lo ricordi Silvano Agosti? Sai che questo nome... Ma è un miserabile? No, Silvano Agosti è un regista. No, ma sai che ho il terrore ormai quando tu fai un nome di qualcuno? ho il terrore, perché lei mai non dici mai nomi, no? Del tipo no, ma Silvano Agosti è un regista. Ma che c'entra? Silvano Agosti è un regista di area più o meno grillina. Ecco. Di area grillina, è diventato grillino nel tempo. E c'è un regista anche abbastanza conosciuto, eccetera. Dice che il lavoro è una tirannia, sentitelo. Beh, ottimo. È una vera tirannia, è un vero ergastolo il lavoro. Per fortuna che il lavoro sta sparendo da questo pianeta ed è demandato giustamente a delle macchine, ma l'uomo non è una macchina. Bisogna lavorare al massimo 3 ore al giorno. La macchina lavora volentieri 24 ore al giorno, l'essere umano no. L'essere umano è giusto che sia disponibile in una società decente per 2, massimissimo 3 ore di volontariato e poi basta. Poi c'è dell'altro, ma te lo faccio ascoltare più avanti. Questa sera pensi che riusciremo ad invitare il grande scrittore sardo Gavino Ledda con Gavino Ledda del suo romanzo storico straordinario Padre Padrone e farne, come dire, un'attualità rispetto ai tempi. È ancora vivo? Ma come ancora? Ma non lo so se è vivo. Gavino è vivo. Ledda, uno dei più grandi. Perché non un giorno non mi sorprendi, anziché invitare delle pornostar, delle puttane? Perché io dico, guarda Davide, va bene, è con noi Gavino Ledda, ma lo devi dire con lo stesso perché entusiasmo, Magris, è con noi il professor scrittore Magris, bellissimo. Manco sai come si chiama, Anna Maria da Verona, vai! Sì, pronto! Ciao, dimmi Anna Maria, dimmi. Mm. Sei Cruciani? Sono io, sì, c'è anche Parenzo, dimmi. Eccoci qua. La mia è una, chiamiamola disperazione, è un discorso politico di fronte alla, non so se la cosa ti interessa perché... Ma so dimmi, che... dimmi. Ecco, di fronte ai nostri politici che parlano soltanto di destra, di sinistra, no, più a sinistra ancora, e ci facciamo mangiare la pappa sulla testa. Da chi? Ma da chi? Scusa, da chi? Ma cosa dice? Da chi? Dalla Francia, per esempio. In che senso? Da quanti anni si parla di andare per questi migranti, di andare a parlare con la Libia? Brava Anna Maria, ho trovato una luce in quello che hai detto. Allora, caro Parenzo, solo adesso ci muoviamo con le navi. Macron fa i cazzi suoi, ti voglio leggere. Ma li ha sempre fatti la Francia. Giustamente. I cazzi suoi. No, brava Anna Maria, molto brava. Caro Parenzo, ti voglio leggere quando fu eletto Macron alcuni messaggi che arrivavano dai politici italiani. Gentiloni, evviva Macron presidente, una speranza si aggira per l'Europa. Tajani, contiamo su una Francia al cuore dell'Europa per cambiare insieme l'Unione e avvicinarla ai cittadini. Renzi, la vittoria di Macron scrive una straordinaria pagina di speranza per la Francia e per l'Europa. Senti, è una grande delusione. La Boldrini, una bella serata per Europa. Per l'Europa. La vittoria di Macron dimostra che ondata populista può essere fermata. Ora nuovo slancio all'Unione Europea, amici miei! Vi siete sbagliati tutti. Si fa bellamente e giustamente i cazzi suoi. Andiamo avanti. Il segnale orario vi è offerto da... A tavola! Che pizza! Roncadin! Che pizza! Roncadin, nel banco freezer! Dimentica i compromessi. Scegli di avere tutto con Lexus CT Hybrid Icon. Vi presenta La Zanzara. Finalmente l'ultima puntata della Zanzara. Sono di sinistra e per colpa vostra do sempre ragione a Cruciani mai a Parenzo. Amo i cani e per colpa vostra mi stanno sul cazzo gli animalisti. Mi sono massacrato con Cicciolina e Moana ai mondiali e ora scopro che Ilona Staller è una suorina. Ah, finalmente l'ultima puntata e ritroverò me stesso. Sono così masochista che anche stasera non ascolterò la Zanzara in diretta, pur essendo l'ultima puntata, per scaricarmela e centellinarmela per il lungo eterno mese di agosto, pur sapendo che il podcast non è la diretta. Siamo al top! Siete proprio stronzi, guarda, proprio ve lo devo dire in faccia. Bastardi, siete due bastardi, stronzi, che ci abbandonate, dove cazzo ve ne andate? Cioè io che cazzo faccio adesso quando lavoro in macchina? Cosa ascolto? Pezzi di merda! Giuseppe, quando vuoi. Stasera mi voglio addormentare e risvegliare il 18 settembre o quando cazzo rinizia la Zanzara. Uè coglione assistente parlamentare, sai perché parli così? Lo sai? Perché i soldi tu non te li sei mai guadagnati, cazzo! Te li regalano a fare quel cazzo di lavoro, assistente parlamentare di questo cazzo! Balla voi la mattina e vediamo se li porta a casa i soldi, pirla! Vai ragazzi che siamo ancora qua per poco più di un'ora! Un piccolo ripasso. Davide è al cesso, è andato a pisciare come al solito. Non so perché la pausa e gli mette un certo languorino alla vescica. Risveglia la sua vescica. Tipi da Zanzara Diego, vai, vai. Tipi da Zanzara. Diego dalla provincia di Catanzaro, dai. No, buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Vai. Buonasera. Sono un bastardito con quel bastardo di autista che dice che noi siamo come i cani, che mangiamo alle scodelle, che dormiamo nelle cucce. Sì. Ma dormirà lui questo indegno nelle scodelle. Io mangio nei miei ristoranti, sono profumatissimo. Grazie a questo indegno, no, la nostra categoria viene penalizzata proprio per queste crape. Perché vabbè, sarà adesso lui un cane a mangiare le scodelle. Bel capito? Linguaggio, bel dibattito tra camionisti. No, interessante. Ma stai zitto, Parenzo, che tu non c'è proprio un cazzo, non capisci niente. Stai zitto, tu, ignorante. Ma adesso che c'entra, scusa. Ma c'è questo professore Parenzo, Settis? Che sei soltanto uno che esiste con la violenza. Stai zitto, mongolo. Ma lei non è il preside niente della normale di Pisa? È il preside della normale di Pisa, lei? Sì, fai il suo posto di sta mincia, Parenzo, cioè, vabbè, me non per i coglioni. Io volevo linguaggio, dire linguaggio nostra... aulico. Posso parlare? Io sì, questo Diego non vi sopporto più, parli, vabbè. Io ho una crisi di nervi, non vi sopporto crisi più, nervi. Voi che crisi telefonate. Vieni qua che te la rompo io la crisi di nervi, Parenzo, vieni. 18 ore al giorno, via che te la pugno io così. Non vi sopporto più io sto gente, non la sopporto un più. Po' c'ha ragione. Non questo qua 18 ore al giorno sta sul più camion e tu pagato profumatamente. Posso dire che non lo sopporto? Non lo sopporto. Che cazzo ne dico così, crisi di nervi c'hai? Che soldi che devi contare, ah? Picciaturo. Mangia nelle ciotole, dorme nella cuccia. Ecco, io voglio parlare. Ma la tua culo, va, fa un po' ignorante. Aspetta, tranquillo, devi stare molto calmo. Che ne pensi dei vitalizi dei politici? Questa ecco, sentiamo, dai, sono, sì, dei, sì, sono dei ladri bastardi, no? Sono ladri bastardi, questo è il commento. Ladri bastardi. Lo sapevo. Bastardi, vitalizi. Ecco, vitalizi, un commento uno, alto, nobile. Tu ce l'hai la pensione? Senta, la prendi? Amico, la... Ecco, lo eccita. Senti l'altro che butta la benzina. Quando muoio, cruciato. Quando sono nel saluto, io la prendo la pensione. In quattro ecco tavole. L'altro. E qualcuno. Capì, Parenzo, che ti piace la crisi di nervi a tiro. E allora, ecco questi l'altro. Qua, in quattro anni, qualcuno prende 1700 euro dopo quattro anni. Non è una vergogna. Che vergogna. Dici? Che dici? Qual è la tua, la tua opinione? Qual pensi? È la tua analisi? Affucilate! Affucilate a uno! Affucilate, lo sapevo. Era abbastanza calcolato. Grazie, Marezzo, grazie, fucilate. Ma vai a quel paese che è finita ormai per fortuna. Vai, suca! Ma che c'entra adesso? Non c'entra niente. Perché non c'entra. Marezzo, perché devi dire chiacchiere? È giusto il vitalizio. Grande dibattito giusto. Sui vitalizi. I vitalizi sono giusti, perché fare il deputato non è fare il criminale, hai capito? Oh. Sei un criminale pure tu che mi ha preso il criminale. Tutto uguale. Ecco. La galera è troppo degna per voi, la galera è troppo ecco. degna. Tipi da Zanzara. Caro David, mi sono assentato un attimo. Mi sembra mi sono assentato un attimo e 19:20 amici, domani a quest'ora sarà tutto finito. Tra meno di un'ora e mezza finalmente potremo tornare alle nostre case, ascoltare la musica classica, stare con le nostre fidanzate, andare al cinema, andare in barca, andare al mare, andare dove cavolo vi pare, andare a Ponza, andare a Capalbio, andare sul lago, andare, ma non ci sarà più questa trasmissione, non ci sarà più, quindi sopportate ancora un'ora e mezza questa gentaglia che chiama e tu anche che li riproponi, capito? Tu anche che me li fai risentire. Sei anni che sento Diego, ti amo, dove sei Diego? Camionista, amico mio, Diego, amico mio, amico mio. Allora, hashtag prima di... è finita. No, ma non mi sembra proprio che sia la finita. Hashtag, la zanzara. Senti, è chiusa. A proposito, Claire, di Silvano Agosti. Citate tutti, hashtag Claire, no, la zanzara. No, assolutamente no. Riconfermatissima, Claire, riconfermatissima. Hai letto, Claire. No? È inutile che ti sottrai a questa cosa. Riconfermatissima. Però, hai sentito prima il regista Silvano Agosti, che tra l'altro colpevolmente non conoscevi. Ti picchi di essere un intellettuale. Diversi ascoltatori ti hanno subito pizzicato su questa cosa qua. Diversi ascoltatori ti hanno subito pizzicato perché Silvano Agosti... Senti, comincia a detestare, non gli ascoltatori, quelli che telefonano, non sono gli ascoltatori. Io li detesto, posso dire che li detesto veramente dal profondo. Ma lo hai già detto ampiamente, Però senti questi qua su Silvano Agosti, senti. Sì. Oh Parenzo, fai il figo, fai il grande esperto di cinema, il cinefilo di sta minchia e non sai chi è Silvano Agosti? Dai là. Beh, questo è grave, eh? Questo è grave. Questo è grave, Azzurro Scipioni a Roma e altre cose, eccetera, eccetera. Comunque, Silvano Agosti ha detto che il lavoro è una tirannia, bisogna lavorare al massimo 3 ore. Mi sembra che però sulle 3 ore i dipendenti signori autisti dell'ATAC l'abbiano preso alla lettera, questa cosa delle 3 ore. Cioè il regista grillino Agosti mi sembra che abbia seguito l'onda di quello, no? Di quello che, di quello che già fanno i signori dell'ATAC. Tra l'altro si è dimesso, lo sai, no? L'amministratore delegato dell'ATAC di Roma, cioè uno che denuncia. Non è Nino Rota, non è il grande Nino Rota. No, è un signore che deve amministrare gli autobus e il trasporto a Roma, che è come amministrare, non so, è come riuscire a raddrizzare la tua. È come farti capire che gli immigrati non devono venire in Italia. È come raddrizzare le gambe ai cani, diciamo così. Sì, sì, come raddrizzare le gambe ai cani. Perché c'è qui un cane che scorrazza. Esatto, è la stessa cosa. Dunque, un'impresa praticamente impossibile. Ebbene, questo signore si è dimesso semplicemente perché ha detto la verità sulla sua azienda. Ha detto che la gente sostanzialmente non fa un cazzo, diciamo la verità. Non fanno un cazzo, assenteismo, gente che non timbra, bordello. Conti a picco, portate i libri in tribunale, disastro, chiudete baracca e burattini. Ma io c'è una avete proposta. Scassinato tutto. No, come facciamo i risciò. Cioè, torniamo ai risciò. No, torniamo ai risciò, certo. Umani, però. Ti per dove, no, gli dove i telefonisti della zanzara, quelli che si lamentano, che Donato da Varese, va, venga a Roma a fare il risciò. Non ha lavoro? Mauro da Mantova, ad esempio, no? Sì, quello è buono. Questo è lavoro. Questo prenda è buono. La sua bicicletta scassata che ha raccontato più volte di aver cambiato, venga a fare il risciò a Roma. Faccia il taxi umano. A Roma, faccia il risciò, il pubblico, faccia un servizio pubblico. Allora, credo sia arrivata una notizia importante, c'è il bambino su cui si è molto discusso, no? Charlie o Charlie Gard, ti ricordi? Sì. È morto. Allora, Roberto da Foggia, vai, iniziamo, Roberto. Buonasera Ciacciani, buonasera a lei. Dimmi, dimmi Roberto, la dimmi. Tua palla. Dai, dimmi, dimmi. Io sono Roberto, chiamo, sono di Foggia e oggi mi trovavo lì a Montecitorio, lì davanti al Parlamento. A fare quella gazzarra. Ma che sei andato a fare a Montecitorio? La gazzarra. Allora, te lo spiego subito, così aprite bene le orecchie tutti quanti. A fare la sono dei rappresentati dei genitori per la libertà di scelta della Puglia. Sì, ma che sei andato a fare? Non c'è libertà di scelta sulla salute. Ve lo dico subito, un attimo su. La mia telefonata è fatta perché devo smentire la notizia che è stata diffusa attraverso la vostra emittente, il che web cosa? E le televisioni, cioè l'aggressione ai parlamentari. Ma allora, non abbiamo parlato di aggressione con i bastoni, abbiamo detto che sono stati insultati, circondati alcuni parlamentari. Ma sì, ma ci sono le immagini. Sì, vabbè, ma circondati che cosa? Eravamo 6-7 persone intorno a quella macchina. Dove abbiamo detto il nostro pensiero. Noi da anni ormai ci impegniamo a difendere il diritto di scelta vaccinale, nonostante l'altro tradimento perpetrato oggi in Parlamento, mai nessuno dei presenti avrebbe mai ceduto alle provocazioni di chi con sorrisi e frecciatine e provocazioni è sceso a... Amico mio, il punto fondamentale è solo uno. Sono stati circondati dei parlamentari, insultati, eccetera, eccetera? La risposta è sì. Ma allora l'aggressione ma è l'aggressione una cosa... che vuol dire? Non è che per forza uno per essere aggredito deve essere bastonato e portato all'ospedale. Che vuol dire? Anche se uno viene circondato notizia... si può parlare di aggressione, certo, non vai a finire in galera. È stata anche smentita ma da... Ma tu una, che cazzo fai? Da Foggia, perché cazzo di motivo sei andata a Roma oggi un giorno feriale? Spiegami perché. Il discorso è questo. Hai figli? Hai vaccinato? Io ho una mia figlia che l'ho fatta vaccinare. Allora? Forse è una libertà di scelta. Non è una libertà di scelta, purtroppo. Io non sono contro i vaccini, va bene. Io sono contro la libertà di Ma questa è una buffonata che vi raccontate da giorni. Se sei tu sei contro i vaccini. Ma dunque sei contro i vaccini. E dunque sei contro. Io non sono contro i vaccini. Questa buffonata solo per la libertà. Che cazzo vuol dire? Non è una buffonata, non ci dovete etichettare. Ma noi chi? Dobbiamo essere liberi di scegliere. Ma che cosa? Ma perché? I vaccini secondo te che cosa fanno? Che cosa fanno i vaccini? Spiegami. Cosa fanno? Spiegami cosa fanno. E di quali fare? Spiegami cosa fanno. Io lo voglio vaccinare, va bene? Però per vaccinarlo, io sono un padre che ha i sensi in testa, ho chiesto alla ASL cosa contenessero questi vaccini. Va bene. E allora? A questo punto che cosa devo capire? Se tu sei un padre incosciente, ma non sei tu. Ma normalmente in una situazione normale ci sono. Cruciani, ascolta. Tu hai fatto iniettare dei vaccini nel bene a tuo figlio, va bene? E allora? Nulla toglie questa tua libera scelta. Tu sai che cosa stanno i vaccini? Che c'hanno? Che c'hanno? Dimmi, che c'hanno? Dimmi. Dimmelo tu che sei più informato. Io mi faccio andare le lezioni dai medici, non da questo qua. Vabbè. Mi rotti i coglioni, io Alex mi faccio Reggio andare Emilia, lezioni dai. Dai medici, non Alex, da questo da Reggio Emilia, qui, vai. Sui vaccini. Alex. Buonasera a tutti, volevo innanzitutto dire che Diego andrebbe fatto presidente immediatamente, seduta stante, subito. Vai, poi? Volevo ringraziare il signor Parenzo da Padova. Sì, ma ammettiti, amico mio, tu forse non hai capito bene la questione com'è. Molto semplice. No. Quando uno chiama la Zanzara, deve mettersi col telefono in grado di farsi sentire bene. Allora, tu sono fermo col telefono vicino all'orecchio. Bah, non ho i miei dubbi. Comunque, vai. Comunque, vabbè, volevo fare una provocazione. Un metodo semplice, efficace, economico per la questione dei Rom. Una bella gettata di napalm. Siamo tutti a posto. Parenzo, rispondi tu. Ma cosa risponde? Rispondo semplicemente che tra un'ora e mezza è tutto finito. Ma che devo rispondere? Ma cosa devo ancora sopportare? Cos'è perché che devo il napalm? Sopportare perché ancora? Il napalm? Spiegami. Napalm è immediato, il giorno dopo si può già costruire e li attiva. Capito Parenzo? C'è un metodo semplice, dice lui, un metodo semplice. Io ho capito semplice, che questo qui, semplice. Voglio chiederle questo, va bene, lei da domani chi chiamerà? Lei da domani, siccome qui chiude questa baracca qua, questo aiuto a malati di mente da domani chiude, lei chi chiamerà poi per dire queste stupidaggini? Aspetterà il 4 settembre per richiamare. Guarda, Marco da Frosinone, C'è niente il 4 ciao. Settembre, lunedì. Vai niente. Marco, ciao, dimmi. Ciao, buonasera. Innanzitutto complimenti per la trasmissione. Non ce ne frega un cazzo, dimmi. Ok, Parenzo sei un mito. Allora, io volevo rispondere al discorso che faceva Parenzo l'altro giorno sul fatto che i politici non sono nostri dipendenti. Certo. Effettivamente io la penso così, perché dovrebbe essere una vocazione fare il politico, come i preti, no? Sono abbastanza quindi, d'accordo, sì, sono abbastanza d'accordo. Dovrebbe essere un segno, praticamente, no, non essere pagati è esagerato, ma dovrebbe essere un impegno, un sacrificio che uno fa per qualche anno al servizio del paese. Questa cazzata per cui i soldi danno autonomia rispetto ai poteri è una puttanata inaudita, sì, perché ormai ci sono i controlli dappertutto, e poi comunque anche i soldi non hanno impedito, lo stipendio alto non ha impedito ai politici di essere corrotti o comunque di essere condizionabili, altre cose ancora, per cui è una stronzata mai vista, per cui deve essere un sacrificio, se uno lo vuole fare lo fa, un grande sacrificio senza alcun vitalizio, senza alcun ritorno futuro, che si trasferisce pure ai figli, ai nipoti, alle donne, alle fidanzate, alle amanti, alle mogli, eccetera eccetera. Uno lo fa per un periodo, la maggior parte delle volte breve di tempo, un paio di legislature, 10 anni, in cui uno si sacrifica per il paese, si impegna lì col capo chino, con la schiena così, con la schiena ricurva sulle carte, sulle cose così, non fa nient'altro, zero di nient'altro. Si sacrifica per il paese a fare le leggi, a fare tutto così, basta, finito. Va pochissimo in televisione, così crollano tutti i talk show. Finito tutto. No, ma così è, cioè, così dovrebbe essere, nella regolarità, così dovrebbe essere, nella normalità. Un esempio ce l'abbiamo, l'ex presidente dell'Uruguay, o no? Ma non lo so, adesso la storia è lunga. Stefano da Torino, vai. Stefano, intanto il ragazzo che pedalava in autostrada dice: il poliziotto mi chiama negro, pazienza, mi ha salvato la vita. Il mito Moussa Kattara, protagonista del video in cui un agente ora sotto inchiesta disciplinare pronuncia frasi razziste. Stefano da Torino, vai. Anzi, chi è Stefano? Civile. Cioè, no, mi Angelo da Napoli, vai. Civile. Angelo da Torino, da Napoli, vai, Angelo. Peppe. Dimmi, Angelo, aspetta un attimo, però, fermo là, fermo là, fermo. Ed è venerdì. Crucia, finale. Lei è un insultatore che crea dei problemi alle persone che sono povere. Ma non mi rompere i coglioni, stronzone. Stronzone. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Ma mo se posso sapere che ci facciamo mi sentire se è mese fino il 9 tutto mese agosto. La gente pensa che io ascolti Radio 24 in auto perché sono un direttore di banca. E invece ascolto Radio 24 per la zanzara, la minoranza o la maggioranza. Ci siamo! Siamo al top! Non date retta a quel maledetto di Parenzo. Chiudiamo, noi chiudiamo. Bisogna già pensare al magnifico ritorno, al glorioso ritorno a settembre. Forza, uniti! Allora, per cominciare, David, ieri sera non c'eri quando si è presentato qui il dottore Guido Bagatta, nuovo presidente della società di basket Siena, nonché mio amico, nonché presentatore TV, eccetera, eccetera, il quale ha rilasciato una clamorosa dichiarazione. Professor è stato con più di 200 donne. Non è 200 donne. Non è ti vero, faccio sentire, questo. Ti faccio 200 sentire. Donne. 200. Quanti anni ha? 57. Bagatta. 56. Lui dice: certo, ho 57 io anni. Posso, io dico una cosa: se rinasco, rinasco Bagatta. Perché? Bagatta, scusa, perché? Se rinasco, rinasco Bagatta. Perché Bagatta è un intellettuale prestato al giornalismo, sempre circondato. Da adesso sta con una donna giovanissima. Mi pare, ma che no, c'entra? Bagatta. Ma cosa c'entra? No, ma se rinasco, rinasco Bagatta. Ha 57 anni. Lui dice: sì, ma è normale. Ho 57 anni, sono stato con 200 donne. Così. Comunque, sentiamo. Così l'ha detto. Così sì, senti. Qualcuno ha fatto spesso un calcolo, no? Cassano dice che si è trombato 700 donne, altri hanno fatto dei calcoli. Ma tu, che calcoli sono? Nei tempi d'ora, quanto sei arrivato? Nei tempi d'ora quando? Cioè, nella, 80? Tua, nella tua vita, quanto sei arrivato? No. Sarà arrivato a 200, sicuro? In totale della mia vita, sì. Sì, sì. 200? Ma nel totale, ho 57 anni. Ma 200? C'ho 57, no, facciamo il calcolo. No, no, non è vero, sì, ho 200. Sbagliato il calcolo. Per cambiare argomento, il signor De Luca su Di Maio, questo è il top assoluto, il governatore del mondo sui vitalizi e Di Maio. Dico subito una cosa, non sono d'accordo con De Luca sulla questione dei vitalizi, però amico mio, a mio parere a De Luca non gliene frega un cazzo dei vitalizi. Nulla. Gliene frega solamente di attaccare i 5 Stelle e Luigino Di Maio. Senti, stupendo. Quello che mi ha colpito in questa vicenda, come potete immaginare, mi è capitato di ascoltare la dichiarazione che gli hanno scritto, fatta da Luigino Di Maio. Io non avevo più avuto tracce di Luigino Di Maio, più avevo tracce, insomma, cercavo di non perdere più tempo. Ieri è entrato di prepotenza nella mia casa, disturbandomi la cena. Ho sentito uno spezzone del suo intervento. Beh, Luigino Di Maio parlava come se fosse un premio Nobel. Dall'alto dei 13.000 euro al mese netti che prendo. Per questo le ho detto che io sto invecchiando ormai, queste cose non le reggo più. Ma in quale paese decente del mondo uno che prende 13.000 euro netti al mese, senza avere né arte né parte, si può permettere di parlare in quel modo? La domanda che io farei a Luigino Di Maio: se tu domani mattina non fai il parlamentare a 13.000 euro al mese, come campi? Come campi? Non hai mai lavorato, non hai un mestiere, non hai una propria... Come canti? Fammi capire. Questo soggetto si candida a fare il Presidente del Consiglio e ha avuto l'ardire di dichiarare ieri, quando è stato il dibattito parlamentare, vi abbiamo sconfitti, si rivolgeva a quelli del PD, che per la verità in termini di comunicazione sono sempre all'anno zero. Vi abbiamo dato scacco matto. Luigino Di Maio. Ora, noi dobbiamo ricordare a Luigino Di Maio che lui, dopo aver dato scacco matto alla geografia, alla storia, alla grammatica, alla sintassi, con il dibattito di ieri ha dato scacco matto alla decenza. Perché uno che prende 13.000 euro netti al mese, per quello che mi riguarda, deve stare zitto. Cioè, questi sono dei cialtroni nati, oltre che squadristi, gente che impediva ai consiglieri colleghi di parlare in continuazione. Ma lo sai che mi fa impazzire a me quando fa, quando tira su, no? Questo Di Maio. È Di Maio, Luigino Di Maio. Delle pause poi teatrali. Poi sui vitalizi la pensi in maniera completamente diversa. Ed è molto parenziano in questo. I vitalizi è una scialtroneria, non esistono più, bravo, eccetera, giusto, eccetera. Ancora, ragione. Io sono disgustato per il livello di demagogia, di cialtroneria, di ipocrisia. Primo, i vitalizi non ci sono più in Italia. Non ci sono. Stiamo parlando di una cosa che non esiste. E quindi abbiamo dovuto assistere a questa grande crociata sui vitalizi, mentre Macron si fregava di nuovo i cantieri navali, la cantieristica, e piazzava sul piano internazionale la Francia. Va bene ragazzi, andiamo ad Ancona. Federico, vai, vai Federico. Sì, ciao Parenzo, ciao Cruciani. Dimmi. Ascolta, io volevo tornare sull'argomento dei Novak. Allora? Per me... No, però devi abbassare la radio, amico mio, devi abbassare la radio. Chiudi la radio. La radio, scusa. Per me si sono limitati, avrebbero dovuto picchiarli di brutto ai parlamentari. Come? Scusi, non ho capito. Si sono limitati quelli dei Novax, cioè, avrebbero dovuto picchiarli di brutto. Cioè, secondo te avrebbero dovuto picchiarli? Perché, scusi? Picchiarli a sangue per una semplice ragione, perché i parlamentari è dal 1871 che hanno il potere di diritto e di morte su di noi. Ma non esageriamo, noi altri, amico poveri mio. Straccioni del popolo sovrano. Non diciamo puttanate, potere di vita o di morte, non esageriamo, non sì, esageriamo. Sono loro che fanno le leggi, loro sì, hanno ho capito. Coercione. Sì. È ovvio che fare le ho capito, certo. Questo mi pare normale. Parlamento democratico, sì, ma sono leggi obbligatorie. Sì, ma tutti, ti sottovaluti. Certo, anche passare con il rosso ti obbliga a non passare con il rosso, certo. Sì, ma quella furbo è una norma di buon senso, non è questo. No, di anche il vaccino non è di buon senso, furbo d'un furbo. Ma qual è il punto? Non perché ho capito. Si tratta di ma salute pubblica. Tu puoi pensare quello che vuoi, ma perché avrebbero dovuto picchiarli? Scusa, spiegami. Ma perché questi cazzo di parlamentari stanno lì senza alcun merito? Non sono personaggi che sono così intellettuali o cultori del diritto parlamentari. Ma che dice? Sono dei coglioni, dai, Parenzo, stai zitto. Sono dei coglioni, ma pure tu che li difendi, come cazzo sei messo, dai? Ma lei come è messo? Ma lei in generale, lei come è messo? Ma cosa c'è? È gente che cosa c'è al posto della democrazia? Me lo spieghi, cioè questo stupido? Che cosa c'è al posto della democrazia, dei partiti? Cosa c'è? C'è questo stupido che ci governa, questo signore qui che chiama, che non so neanche chi è, Federico, che parte, ne parte, che alle 19.42 non va a lavorare. Tu credi nei fantasmi, la democrazia. Ma io non lo so, ma è venerdì, ma vai a lavorare, vai in vacanza, leggiti un libro, stai con la tua fidanzata, col tuo fidanzato, fai quello che dici. Ma te ce l'avrai il fidanzato, te che difendi tanti. Ma anche tu ce l'hai, si capisce, dai. Ma spiegami un attimo, ma che vuol dire culattone? Scusa, non ho capito, che c'entra culattone? No, adesso fammi parlare un attimo sui parlamentari. Questi qua. Ma io non ho capito bene che vuol dire la democrazia è un fantasma. Mi pare che ti sbagli. È un'illusione la democrazia. Ma che cazzo dici? Ma tu esiste. Sei qua e parli, dai, amico mio. Sei qua e parli, non dire puttanate. È l'illusione. Ma che cazzo c'entra con la democrazia? Ma non c'entra niente con la democrazia. Non c'entra niente con la libertà di parola. Ah, è no. Un'altra cosa. E che cos'è? Avanti, spiegami. Spiegami, avanti. No, spiegami che cos'è secondo te. La Norvegia non è una democrazia, sì. È una monarchia costituzionale. Ma cosa c'entra? Eppure i norvegesi possono parlare tanto quanto noi. E allora è una democrazia la Norvegia, infatti. Ma chi dice che no, non è? No, è una monarchia. Una ma monarchia, cosa vuol dire? La democrazia è un'altra perché? Cosa, mamma mia. Sei un ignorante. Senti, Federico, già mi hai rotto i coglioni, eh. Se, allora, ma io. No, ma su qua. Che cosa? Su che cosa? Su che cosa hai ragione? Hai detto che vanno picchiati, allora. Hai detto che vanno picchiati, amico mio. Ma è un minimo proprio, picchiati il minimo, andrebbero messi sulla graticola bollente ad ardere. Cioè, ma te, te ti dovrebbero arrestare però, sul serio, se tu pensi ma che... No, ma in una struttura adeguata, ma che arrestare? Tutti la pensano come me, tutti i poliziotti la pensano come me. Perché tu sei un poliziotto, non ho capito. Ah, questo non lo posso dire, top secret. Che vuol dire? Tutti i poliziotti la pensano come me. Che vuol dire tutti i poliziotti la pensano? La maggioranza dei poliziotti e delle forze perché dell'ordine, lei è un cioè quelli quindi. Onesti. E dunque sostanzialmente hai detto che sei un poliziotto. Appunto. Io non ho detto che sono un poliziotto. Perché hai fatto il paragone con i poliziotti? Tutti, perché hai nominato i poliziotti? No, perché tu dicevi che sono da arrestare e io ti ho risposto, ho detto, no, assolutamente no, perché tutti i tutori della legge, agenti e ufficiali. Vabbè, Federico, ma comunque lo puoi dire tranquillamente, sono un poliziotto, sono un carabiniere, sono un finanziere, sono un che ne so, un nulla facente, sono non un tenuto a dirlo. La non cosa sei tenuto a dirlo, ma puoi dire anche di no, però. Puoi dire anche di no. Non sono no, infatti, non appartengo sono non appartengo alle forze dell'ordine. Non appartengo alle forze dell'ordine. Bah, vai a crederci, vai. Ecco. Angelo da Napoli, vai Angelo. Peppe, senti, io non sono completamente incazzato con Parenzo. Non per sei riguarda... incazzato o sei incazzato? Sono incazzato con Parenzo. Sei incazzato. Per quanto riguarda, sì, perché quando li parla di poliziotti, quella è solamente una separazione quotidiana. Mentre prima. Ma quale? Cosa casi... ti riferisci al caso di Ventimiglia? Ma questi negri casi? Prima li controllavi tranquillamente. Questi negri. Adesso, sì, quando sono tu in. Tu che mestiere fai, finito. Angelo? Dai, manca io poco, sono ragazzi, in congedo finalmente. Cioè, sei un poliziotto pure tu. Appartenente, esatto. Ex, sei un ex delle forze dell'ordine. Meno male. Sì, fino a tre anni fa tu riuscivi a controllarli, li controllavi. I negri, abbassa la radio, abbassa la radio, chiudi la radio. La radio sono spenta. Sento il ritorno. Adesso non si riesce più. Nel momento in cui io parlo con dei colleghi, quando gli chiedo, quando c'è un assembramento e gli chiedi documenti a qualcuno, devi stare attento. Ma devi stare veramente attento, devi chiedere altre volanti che arrivano sul posto, altre gazzelle. Non è semplice. Oggi a Firenze, ospedale Careggi di Firenze, c'è uno che mi ha mandato una foto che gira pure su internet di un signore nero di colore, c'è anche un centro immigrati lì all'ospedale di Firenze, vicino là, di 150 persone, completamente nudo. Che gira, che cammina lì, si giuro, completamente visto che nudo. Anche in altre città, anche a Bologna, ho visto che è successo. No, ma di questo. Sì, quella là non era una nera, non era un'immigrata. No, era carità, semplicemente trovato. Questo qua invece era un immigrato in un vicino, non ci deve completamente nudo. Ci tieni nudo. A dire che siccome è un immigrato che gira nudo, mentre la ragazza che gira nuda a Bologna, ma bianca, dai, sta per finire tutto questo. Fermo là. Sì, chiedo scusa, un momento, chiedo scusa, pubblicità. La Zanzara. Non L'unico vero scandalo in questa storia di merda è che i poliziotti continuano a prendere 1500 euro al mese. La prossima volta i poliziotti non devono dire vai al tuo paese, andate a casa di Parenzo. A tutti questi qua bisogna dirgli andate a casa di Parenzo. Non è una cattiveria, è un dato di fatto, andate a casa di Parenzo che vi mantiene, c'ha tre case, una a Padova, una a Firenze, una a Roma, vi mantiene Parenzo, andate a casa di Parenzo. Allora io proverei a fare una telefonata a Richard Benson, caro Firenze Davide. Non ho case, però posso dire. Richard Benson, no, intendeva Siena. Questo è imprudente. Richard Benson, uno dei grandi protagonisti di questa stagione della Zanzara, signor Richard Benson, proverei a fare una telefonata. Proviamo, tanto proviamo, dai, proviamo a salutare, dai, proviamo a salutare il signor Richard. Salutiamo tutti i mostri che hanno, come dire, no, vissuto questo intenso anno. In genere nei giornali il direttore saluta i suoi columnisti, i suoi editorialisti, no? Penso al Sole 24 Ore, il saluto, no? I vari professori che scrivono sul giornale, Quadrio Curzio, eccetera, penso al Corriere della Sera. Noi salutiamo i nostri, dai, forza, squaderniamo. Alessandro da Roma, vai, Alessandro. Alessandro, dimmi. Cruciato. Dimmi. Per favore mi dica un attimo parlare, perché tu ribadi quello che ho detto l'altro mese, che Parenzo mi ha rotto il cazzo. Giusto. Ma veramente mi ha rotto il cazzo. Parenzo, allora... Parenzo, come cazzo fai tu a dire gli italiani vanno educati? Ma che cazzo sei per dire che gli italiani vanno educati? Ma che cazzo sei? Tu sempre gli italiani vanno educati. Intanto ma chi parli. So gli educatori? Tu, rondolino cazzo fino, quel porco di Ferrara, ma chi so gli educatori? Quei quattro coglioni che te becchi dei salottini? Sono che. Intanto che salaggio, frequenta quei salottini del calcolo, t'ha portato alla 7. Sono salottini, eh? Sono salotti intanto, non salottini. T'ha portato alla 7 nel calcolo. Bravo, funziona. Dovresti prima, fare un amico, libro, come leccare il culo. Già, lei ne è un esperto massimo, visto che è un docente alla Normale di Pisa. Che idiota, su come farlo. Che ma lo sai perché tu stai alla... Lei ha avuto un'adolescenza... Ma lascia perdere però, che cazzo c'è? Lei ha avuto un'adolescenza difficile? Lo sai perché sta alla 7? Perché la 7 ha dovuto cambiare... diciamo linea, sì. Linea editoriale, ma che ha mandato via gente come Paragone, ha preso le cagole come Parenzo, ha preso, ma non è andato che via. Serve, ma non è via, serve, ma non capito? È via, lei non sa niente, è talmente stupido poverino, non sa niente, perché... Paragone, ma non è andato via, è ancora detto. Qui, farà un'altra cosa, è ancora qui, mi dispiace perché lei è talmente stupido che quando fa una critica non si informa neanche, perché è stupido. Verità, ma non fa male, nulla fa male, perché se lei chiamasse e vedesse quello culo, che scrive l'amico Paragone, lei sa perfettamente che non è andato via da nessuna parte. Ma ragazzi, ma posso dirvi che non frega un cazzo a nessuno? No, tra cosa... l'altro la faccio per rispondere a questo povero idiota, che se mi vuole attaccare lo può fare con altri strumenti, non con queste stupidaggini. Però senti, sai cosa ti dico? Vai a fare il culo, amico mio. Io ho detto quello che penso. Questo idiota... che vuole educare il popolo italiano, ma no, ma educa, lei è ineducabile, lei è proprio un maleducato, il popolo italiano. Ma lei è un maleducato di natura, lui non c'ha un pensiero. Ma l'altra sera hai visto come si girava quando faceva le domande a Battista, ma lei è un come maleducato. Si guardava intorno, la guardi, io ho fatto però. La domandina, ma la guardi però, ma la guardi, allora si chiama Di Battista, si chiama Di, ti voglio segnare che si chiama Di Battista, almeno il nome, però la guardi, non me ne cazzo come si chiama, ho capito, almeno citalo, però se lo citi almeno la guardi, e la guardi guardia, pure. Ma quale guardi? Hai fatto quello che fai sempre, hai leccato il culo, non hai e fatto. E intanto l'hai guardia. Vista però. E intanto l'hai vista. Ma senti, io, ma a parte che prendi sempre per culo Di Battista, ma poi intanto per farlo ascolti ti chiama quelli del 5 Stelle. Ma intanto l'hai cioè, vista la puntata. Prendi per culo quelli e del mi hai 5, fatto guadagnare, l'hai vista. E intanto l'hai vista. Perché sei talmente stupido. Perché non gliel'hai detto in faccia? Sotto, perché non gliel'hai detto in faccia? Perché ciao, come Alessandro. Lei sa, si devono usare registri diversi in base al contesto dove sei. Non lo sa, come lei sa, come lei non sa. Esatto, chiedo scusa. Come lei non sa. Ciao Alessandro, ciao, sì. ciao. Ragazzi, voglio mettere un sacco di ascoltatori. Mi dispiace per te, Parenzo. È l'ultima puntata, voglio mettere una marea di ascoltatori. Una marea. Mohammed da Verona. Per esempio, Mohammed da Verona. Buono, vai, potrebbe essere buono. Sentiamo Mohammed. Eccomi qua. Dimmi Mohammed, che vuoi da me? Dimmi. No, io voglio sapere una cosa. Un medico. Un esempio, sì. Può obbligare un paziente a fare una terapia particolare? Sì, ma cosa vuol dire? Un'altra cosa? A che ti riferisci? Scusa, ma questo è Parenzo, ti devo smentire allora, subito. Questo qua è contro i vaccini, te lo dico subito. Contro il vaccino, non contro il si vaccino. Si vede che si è talmente integrato scelta, che ha assorbito le sciocchezze di qualcuno. Questa è la dimostrazione. Appunto, la sciocchezza degli italiani che vanno a scegliere i parlamentari ignoranti che obbligano la gente a fare una cosa che non vogliono fare. Ma chi te l'ha detto che non la vogliono fare? Ma chi non te l'ha lo detto? Io non lo voglio fare. Tu non vuoi vaccinare i tuoi bambini? Non le voglio, cioè e allora vai in Marocco, vai in Marò, sei no, marocchino? Vai te in Marocco. Sei marocchino di origine? Tunisino? No, sono italiano io. Sì, lo so, sei italiano di origine, ho detto. Che cosa sono sei? Sono nato qua in Italia io. Sì, ma di dove sei? Italiano. Sì, oh, amico mio, di origine. Ti chiami Mohammed, non è che sei... Mohammed non sarai... i genitori sono musulmani. Sì, ma di dove? Dalla Siria. Della Siria, dunque sei di origine siriana? Sì. Tu che sei islamico, pure tu muslim? No, non sono musulmano né sono laico. Bravo, bravo amico mio, sì. Bravo. E allora che vuoi? Allora, quanti figli hai? Cinque. No, nessuno vaccinato? Sono tutti vaccinati, ma io parlo allora, della libera scelta delle persone, questo è un modo ma di... Non è, ma ragazzi, però qui confondiamo alcune cose. Io non è che sono un grande fautore di questa legge, perché 10 vaccini, quello che vuoi, non sono un grande tifoso. Dopodiché, se non ho informazioni contrarie, mi attengo a quello che mi prescrivono le autorità sanitarie. Se non ma mi non sembra... sono attendibili! Ma chi te l'ha detto che non sono attendibili? Chi lo dice? Tu lo dice Mohammed! Parlano solo ignoranti come te, come quello stronzo vicino a te. Beh, Mohammed, dice, scusi? Che sei uno stronzo. Mohammed. Ha detto che sei uno stronzo. Ma lei si è integrato perfettamente, vedo, ascoltando la zanzara. A fare pubblicità a dei farmaci non posso dire che non sono utili. Sono utili, ma lascia perdere le persone che vogliono farlo e non obbligarli a farlo, multarli e fare i bambini non andare a scuola. Ma stiamo scherzando? Questo non è dittatoria, questa. Cioè, che cos'è questa? Che cosa? Un modo di dittatoria questa. Dittatura, la dittatura. Cioè, dittatura. Secondo te obbligare i figli a vaccinarsi i figli a vaccinare è una dittatura. È una dittatura. Ma scusa, certo. Ma, anche, ma una dittatura secondo te? Una dittatura? Sì. Ragazzi, dittatura. Ma se le autorità sanitarie italiane le ti dicono... Le autorità sanitarie, me ne frega un cazzo delle autorità. Una dittatura questa, obbligare la gente a fare una cosa. No, scusi, e io la dittatura come medico c'è non nei paesi... posso obbligare una lei, da quale persona paese a fare viene, una terapia. Scusi. Da quale paese viene lei, scusi? Quale paese è la Siria? Dalla Siria. Ecco. La informo, amico caro, e ha fatto bene lei a venire in Italia, anzi io la accolgo a braccia aperte. Sì. La informo però che la Siria del signor Bashar Assad, del signor Assad, quella si chiama dittatura, non l'Italia. Sì. Quella di Assad. E quella della legge di oggi non è una dittatura. Nessuna dittatura. Nella democrazia funziona così: un Parlamento ha votato, c'è un problema di salute pubblica. Si tratta di prevenire e di sconfiggere delle malattie che possono provocare dei danni pazzeschi. E quindi ci si vaccina. Ma la gente fine. Lo sa quale pericoli ricorre. Non obbligare le persone a fare una cosa che non vogliono. Ma che vuol dire? Ma non vuol dire niente questo. Obbligarli è, secondo te che e allora sei? Cosa c'è dietro? Spiegami, secondo te perché vogliono fare questa cosa? Per far guadagnare allora, le case farmaceutiche? Perché cosa? Spiegami. Anche per questo. Benissimo, allora siamo in una situazione, però portatemi le prove, ragazzi. Siamo in una situazione per cui secondo te tutte le autorità no, questo è il sottotesto. Mi avete rotto i coglioni. Il sottotesto è questo. Voi pensate che ci sia un grande complotto da parte fermo là. Ci sia un grande complotto delle autorità, delle aziende farmaceutiche in combutta con le autorità politiche italiane per imporre a tutti una specie di cura ai bambini per fare un favore alle case, alle multinazionali del farmaco che provocano danni enormi per fare un favore alle multinazionali del farmaco. Questa è la portate le prove, io sono aperto qui, siamo aperti, portate un cazzo di prove. Buonasera e benvenuti dalla vostra parte. Ti fanno andare a scuola? No! Adesso il capo ce l'hai, scuola non ce l'hai, niente non ce l'hai. Direttore pazzesco! Nella roba pazzesco! Non ce l'hai, non ce l'hai, non ce l'hai, niente non ce l'hai. Non ce l'hai, non ce l'hai, non ce l'hai, non ce l'hai. Io vendere erba, dove la prendi? Malpensa, tutto viene di là. Da Bergamo, sì! Da Bergamo, vai all'aeroporto. E rapporto, Linate, Bergamo, Malpensa. E vendi l'erba. Sì! A vende l'erba. Io vendere erba, io vendere cana. Non ce l'hai. Cana. Non ce l'hai. Cana. Non ce l'hai. Non ce l'hai. La zanzara. Parenzo, tu difendi i vitalizi perché devi lavorare, ma è evidente, è lampante, si capisce, perché il ragionamento che fai non sta in piedi, ma logicamente non sta in piedi. Dai, su, ammettilo, devi lavorare. Parenzo di sta minchia. Cioè, tolgono i soldi a questi fottuti parlamentari che ci hanno distrutto e tu li vuoi dare ai migranti. Non ho parole. Qua giù, se volete parlare al telefono con la Zanzara da fallotto 0024 0024 oppure se volete mandare un faccio i messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701. Signora Esther? Pronto? Esther, amica mia, sono Eccoci. Cruciani, come stai? Ah, ciao Giuseppe. Ciao, tesoro. Ciao cara, sono volevo Parenzo. Volevo salutarti che è l'ultima puntata della Zanzara. Ah, sì. Eccolo quel sottotitolo intellettuale. No, sì, volevo salutarti che è l'ultima puntata della Zanzara, siccome siete stati protagonisti per una lunga parte di questa stagione. Sì. Volevo farvi un saluto a te e a Richard. Grazie, molto gentile. Come state? In diretta, come perché state? Avete Dove dato sei? Un grande contributo, quindi grazie. Come stai? Così. Non sto proprio informissima, comunque. Che è successo? Oh mamma mia. No, niente, un po' di problemi, però... Ma vostri in generale o tuoi? Nostri in generale. No, ma di nuovo di problemi di soldi, no, di nuovo? Coppia. Ah, no. No, problemi di tutti i tipi. No, di coppia. Ma quest'anno fate concerti quest'estate, fate qualche cosa oppure no? Non lo sappiamo ancora. Non lo sapete. No, mi dispiace. Richard, vogliamo salutare Richard un attimo per capire com'è. Ci fai dare un abbraccio a Richard? Digli Parenzo, vogliamo dargli un abbraccio col dottor Cruciani, Parenzo. Richard, due minuti, l'ho sentito in sottofondo. Per salutarlo perché sì, veramente... ma è molto nervoso in questo periodo. Beh, è uguale. Ma è nervoso perché? Che è successo? Questo vogliamo capire. Ci dispiace moltissimo, veramente è una cosa. Me lo puoi passare un attimo, anche se dice di mortacci sua, perché ho sentito prima ha detto di mortacci sua. Beh, no, forse mi stava mettendo le mani al collo. No, che è successo? Pure. Che è successo? Sì, è violento. Ma come? Allora, passacelo un attimo, però, che gli diciamo. No, veramente, cose, veramente. Perché, passacelo veramente quasi di corsa, gli dico qualcosa io, dai. Non è possibile, qualcosa. Non si toccano le donne neanche con un fiore. Un attimo, Esther. Dov'è? Richard. Richard. Richard, ci sta Cruciani al telefono. Certo. Passamelo un attimo. Richard. Richard, il telefono. La radio. Che mi frega. Come che mi frega? No, un attimo, per salutarlo. Esigiamo dai. Di parlare con lui, no, perché vogliamo risolvere questa situazione. Anche se ci manda a fare in culo. Anche un vaffanculo va bene, anche un vaffanculo, però dov'è? Dobbiamo risolvere questa passa situazione. Passa il telefono, basta, cioè, ci pensiamo noi veramente. Sì, Richard, vogliono parlare. No, io non voglio parlare con nessuno. È la Confindustria che parla, Richard. Confindustria. Che io sono incazzato nero per questa cosa che ti sta mettendo le mani al collo. Cioè, sono veramente incazzato nero per questa cosa qua. È molto violento. Ma come mai è violento con te? Scusa, non ho capito. Ma ti ha picchiato? Ti ha picchiato? Mi picchia molto spesso, sì. No, ma veramente stai dicendo? No, ma davvero è uno scherzo? No, è vero, è vero. Ma ti ha ferito anche? Roba di ospedale? No, quello no, però insomma. Però ti picchia spesso. Ma che roba è? Ma io non lo so. Io pensavo scherzasse. Ma come mai, secondo te, scusa? Perché beve, no? No, Per nervosismo. Ma cosa vuol dire per nervosismo? Sì. Ma non c'è giustificazione, cosa vuol dire per nervosismo? No, ma io non mica non detto esiste che, al mondo. Non ho detto mica che è giustificato. Passacelo un attimo. Ma l'ultimo concerto che avete fatto, quando è stato? Non ce lo ricordiamo adesso, ma come ragazzi. Te lo ricordi, scusami. Capito, è una situazione drammatica, però mi sembra. Ma ti prego, me lo passi un attimo. Poi dagli il telefono, al massimo ci manda a fare in culo. Però devo sentire la sua voce, perché veramente questa cosa qua va chiarita. Passa il telefono in mano, vediamo che fa. Ti prego. Richard, vogliono parlare con te. Non ti voglio parlare, ti ho detto. Dai, parlaci. È giusto, Richard. Non deve picchiare nessuno. Metti viva voce un attimo, scusami, Esther, metti viva voce un secondo. Mettimi la voce, così almeno mi sente. Richard! Esther? Sì? Metti viva voce un secondo, così mi sente. Non metto il viva voce. Richard! Richard! Vieni! Richard, vieni a parlare un attimo. Richard! Mo lo chiamo sul suo telefono, perché il suo è spento. Esther, che è successo? No, il suo l'abbiamo smarrito. L'avete smarrito? Pure. Cioè, in che senso? Smarrito. Vabbè, normale, sì, capita. Ma scusa, vai via, se c'è questo clima a casa, vattene via, scusa. Esther. Perché non... la vuoi andare? Passamelo un attimo, passamelo un secondo. Passamelo. Passamelo un attimo, passamelo. Ecco. Richard. Eccolo qua. Richard. Dai, due secondi, Richard. Un saluto. Signor Benson. Richard. Richard. Richard. Oh. Signor Benson. Questa è la radio, bisogna anche parlare. Eh? Richard. Lo so. Sì, lo so. Siamo sempre in diretta a un casa Benson, cose gravissime. Ragazzi, non gli va di parlare. Sì, ma tu vai via però, scusa, se questo ha fatto delle picchia, cose vai via, violente. Scusa. Seriamente lo dico. Lo stiamo dicendo seriamente qua, c'è un'emergenza. Ma dobbiamo avvertire qualcuno, scusami Esther. Esther. E dove devo andare? Ma sotto i ponti? Ma ho capito, ma dobbiamo avvertire qualcuno. Non è possibile stare... Dobbiamo avvertire qualcuno. Passami. No, che spegni il telefono? Che decide lui? Ma siamo matti, ha spento? Ma di una violenza incredibile. Richard! Mamma Richard, sì. Esther, mi senti? Esther? Passa un attimo. Che cazzo volete? Allora, perché? Ma che è successo con Esther? Scusami. Che cazzo volete? Ma non si deve picchiare, oh. Oh, scusa, ti vogliamo salutare, Richard. Richard, ti vogliamo... Io non voglio salutare nessuno. Ma perché? Salutaci un attimo, con tranquillità, con... Sì, ciao. Ma ciao. Che è successo con Esther? Che succede con Esther? Scusami. Ti prego, voglio dormire. Vuoi dormire? Spacco questo telefono. Ma stacca, scusami. Fammi un spegne. Sì. Ma che vuoi dormire? Ma perché vuoi situazione dormire? Sono una situazione grave, veramente. Come va la situazione economica? Ma male, mi pare. Eh? Ma no, economica, ma male in generale. Richard. Sono ma non siamo impazziti. Noi. Richard. Richard, mi ha detto Esther che la stavi picchiando prima. Richard, mi senti o no? Vabbè, ragazzi. Facciamo un delirio! Li avete visti sulle ri... No, sì, però è grave, sì, però è grave, però. Sì, hai ragione. È incredibile, mi pare. Adesso io pensavo inizialmente scherzasse, ma mi pare sia serio. No, invece. Ma è grave. Non si capisce mai lì il confine tra la verità e l'arte. Facciamo una trasmissione! Una trasmissione da urlo! Ho capito, amico mio, però non è che bisogna mettere mani addosso alla gente. Sergio da Frosinone, vai Sergio. Dimmi. Ragazzi, ciao Cruciani, ciao. Dimmi. Senti una cosa, ti volevo dire, io non sono sulla questione dei vaccini, volevo solo mettere a corrente perché la gente è preoccupata di questi cazzo di vaccini. Vabbè, ma la gente può essere preoccupata per qualsiasi cosa, ma che vuol dire? Ma ragazzi, allora, i vaccini costano un fottio di soldi per le industrie farmaceutiche. E vabbè, quello lo sappiamo tutti, come tutte le cose al mondo. Poi... No, un attimo, fammi dire, dovrebbero essere venuti a una temperatura di 4 gradi, 3-4 gradi. No, però ragazzi, scusami, però amico mio Sergio, non ci possiamo mettere a fare qui le discussioni scientifiche di cui non me ne frega francamente un cazzo. Su quello c'è il web, informatevi su web, fate quello che volete, ma qui non mi portate discussioni scientifiche. Perché hai paura? Perché sono dannosi secondo te? Ma sono pieni di metalli, certo che sono. Oddio, ma questo. Sì, Sergio, innanzitutto ti devi far sentire, tu non ti fai sentire perché il telefono messo male, oppure parli col viva voce, con l'auricolare, non so che cosa. Dunque, non ti si sente. Se vuoi farti sentire, non è il modo giusto ti per farti sentire. Sì, ti sento, dimmi, dai. Allora, fanno male perché c'è il metallo pesante. Ragazzi, ma saremmo tutti morti a quest'ora. Ci sono milioni di persone vaccinate, non mi sembra che ci sia un'ecatombe in giro. Nel periodo in cui viene fatto il vaccino sul bambino. Che vabbè, tanto non si sente questo qua. Antonio da Piacenza, vai. Antonio da Piacenza. Sì, volevo parlare con Parenzo. Sì, non c'è, è andato via. Non lo insulto perché ci ha già pensato Alessandro e quindi è andato via. Parenzo non c'è, se ne è andato. Dottore no, c'è. Volevo dire tre cose, poi dopo puoi dire quello che vuoi. Uno, no, dottore, Paltito. De Luca è un camorrista, non lo dico io. No, innanzitutto ti assumi la tua responsabilità, ti assumi la responsabilità di quello che dici, perché De Luca non è affatto un camorrista. Deve essere provato il legame con la camorra di cui parli tu, non è mai stato provato e nemmeno ci sono state mai indagini, credo, per associazione camorristica, per cui ti assumi la responsabilità nei confronti del governatore del mondo di aver detto qui alla Zanzara che De Luca è un camorrista, chiaro? No, vabbè, lo dico io, ma non è che mi vergogno, lo dico. E lo dici allora Antonio da Piacenza, due punti, non so come cazzo ti chiami di cognome, De Luca è un camorrista, va chiaro? Bene, lo dico, non mi vergogno. Non ti vergogni, devi portare, qui forse non avete capito, devi portare anche le prove, se tu dici quello è un camorrista, non è un insulto, non è un insulto, non è quello è un coglione, non è la Zanzara, se uno dice quello è un camorrista, devi portare le prove. La democrazia che guarda che De Luca, io sono contento se De Luca ti toglie pure ti toglie anche la pelle, se ti toglie anche la pelle, magari. Cioè, ma secondo te allora ti dico poi un'altra cosa, voi parli di democrazia e noi in Parlamento abbiamo gente come Scilipoti e Razzi e voi volete un Parlamento con Scilipoti e Razzi, ma che c'entra? Ma cosa c'entrano Scilipoti e Razzi? Cosa c'entra? È un cabaret, è delic, ma ti segnalo che segnalo che Razzi è stato eletto due volte con i voti degli italiani all'estero, per due volte. Infatti ti fa capire l'intelligenza dell'italiano medio che vota uno come Razzi, tu ecco, no? sei un altro poi, che pensa che gli italiani sono dei coglioni, sei no, un altro che pensa che gli italiani sono dei, invece l'intelligente sei tu che dà del camorrista De Luca, l'intelligente Antonio De Piacenza, questo coglione, sei un coglione, questo è il un coglione che non ti rendi conto che è così, non vedi come parla, sembra il padrino. Ma chi parla, chi? Ma parla chi? Ma cosa vuol dire? Ma quello è un fenomeno mediatico. È uno che è stato votato da un sacco di persone. È stato votato in campagna da un sacco di persone. Sì. Cosa dici? Magari con i voti della camorra. Comunque, i voti della camorra. Mi auguro che si assuma tutte le responsabilità di sta roba. Che continua a difendere. Ma sei un poveraccio, quella realtà. La realtà è che sei un poveraccio. Palenzo non c'è. Arrivano i migranti, devi spiegare perché in una città come Piacenza, che è una città di 300.000 abitanti, io entro in un bar, tutta via Roma è pieno zeppo di bar di cinesi. Ti dico che noi siamo un popolo accogliente, siriani, c'è la guerra, che vengono tutti qui, c'è la guerra in Libia, che vengono i libici qui, va bene. Ma in Cina non c'è la guerra, eppure più di cinesi. In Ecuador non cosa c'è la guerra. Ma cosa c'entra? No, perché e non vuole i cinesi in Italia. Ma se non vuoi i cinesi, fai delle manifestazioni contro i cinesi, non so. Pure ma non i cinesi, non i cinesi. Ci sono dei popoli, ci sono dei popoli in Italia che non c'è la guerra nel loro paese, eppure ma sono cosa tutti c'entra? Qui. Perché e noi gli italiani che vanno a lavorare realtà, in Cina? Capito? E le imprese che vanno a portare lavoro in Cina, ma che c'entra? Ma che dice? Dicendo, se tu rispondi a una domanda con un'altra domanda, ti no, sto dicendo io non rispondo l'Italia più è un paese a lei, povero, non rispondo capito? Più a voi, sono le 20:12, tra 45 minuti è tutto finito. Sui giornali ieri sta scritto che ci sono il 29% di italiani a rischio povertà. Quindi noi cosa facciamo? Importiamo altra povertà. Giovanni da Roma, lei ciao Antonio. Scemenza, Giovanni da Roma. Non a rischio. Giovanni da Roma. Non a rischio, vai. Giovanni. Allora, punto uno, buonasera, vai, un grande abbraccio vai. A Richard, è un mito, quindi è inutile che... ho capito, però... Beh, no, dipende, poi no, vaccini, vaccini, calma, hai visto calma, che ragazzi. Sta succedendo, sì, è un dramma. Allora, dai, ragazzi, ce ne faremo una ragione, c'è chi sa peggio. Comunque, io volevo semplicemente portare la... Ha messo le mani addosso a quello. Ma lì lui è un grande della mia... Mi sta picchiando. Le donne vanno picchiate, comunque, lasciamo perdere. Non entriamo in questa stupidaggine. Ma che dice? Non è stupidaggine, è una roba seria. Aspetta, vabbè, tu stai con una donna... Che vuol dire le donne vanno picchiate, scusa? Oh, mamma mia. Ma scusa una cosa, ma dove vivi, scusa? In che senso dove vivo? Io non ho mai picchiato una donna in vita mia. Hai fatto male, hai fatto molto molto molto male. Senza controllo sanitario. Andiamo avanti. Vabbè ragazzi, scusa, ciao, vabbè vi saluto. Va. Ma che vuol dire ci saluto? Meglio. Rincoglionito, Giovanni, scusa, che vuol dire è giusto picchiare una donna? Spiegami. No, ma spiegamelo sul serio. Spiegamelo. Oh! Che c'hai paura adesso dopo che hai detto la cazzata? Hai paura? Giovanni? Si è fatta sotto questo. Parenzo. Sono Parenzo. Quali sono le soddisfazioni che le dà questo animale? È che una bella bestia. Pagato dal Mossad. Parenzo. È che una bella bestia. Pagato dal Mossad, pagato dal Mossad. One of these days these boots are gonna walk all over you. Sono Parenzo. Vabbè, c'è la soddisfazione dell'animale. Dimentica i compromessi, scegli di avere tutto con Lexus CT Hybrid Icon. Vi presenta La Zanzara. Parenzo, giustamente tu stai esultando perché oggi è l'ultimo giorno, noi lo capiamo. Tu avrai 2 ore in più al giorno per sollazzarti con la tua Anna, ok? Ma sappi che questa è soltanto una tregua. Goditi questo mese di tregua perché noi poi torniamo più incazzati di prima. Goditi questo mese di tregua. Facciamo così, Parenzo, visto che oggi è un triste giorno per tutti noi miserabili ascoltatori della Zanzara, ogni volta che dirai chiudiamo per sempre questa baracca, riceverai un vaffanculo da tutti noi della minoranza rumorosa. Ehi, un top assoluto! No, questo che dice... Sì, pronto. Allora, no, che cosa volevi dire? No, no, allora, dunque, le donne, che cosa hai detto? Vabbè, ma questo non è l'argomento, ma che cioè adesso non do... chi mena, chi non mena, non, hai detto non tu, è questo. Hai detto tu che meni le sì, donne, minetta, che è giusto menare le donne, hai detto tu. Ma certo, cioè, ti guardi, certo basta quella che le prende, guarda. Ma che vuol dire? Pronto, con chi parlo? Scusi, lei è la compagna nonché la moglie di questo signore, Giovanni? Non lo conosco neanche, non mai visto. Allora mi pa- sì, no? Sì, è un rapporto sì. Diciamo. Senti, non fare il coglione con me, no, perché sono più bravo io a fare il coglione. Allora, amico mio, hai detto una cosa prima, che scherzando, ridendo, però certamente eri un po' serio. Hai detto, certo. È giusto picchiare le donne. Certo, ma anche le donne che picchiano gli uomini. Ma cioè, che vuol dire? Ma lascia perdere, tu hai parlato giusto. Non fare il paraculo con me. No, non faccio il paraculo, ti dico come la penso. E non la penso come te. Come la penso? Io sono un mammifero, è chiaro? Che vuol dire? No, lei è stupido, non è un mammifero. Vabbè, come pare. Adesso lui ci può dire che lui si dà i bacetti con la moglie e così. Ma non funziona così. E come funziona? Quando uno sta dentro casa, sì. Ho capito? Cioè, sì. Capisci? Si scatena. Si accende una miccia. Cioè? Magari un pomodoro, una stupidaggine, si accende una miccia e tu dai giù, e tu hai giù botte. Tutti si menano. Ma perché, ma tu pensi che lei non mi mena? Ma dai, su, non dire bufala. Tu parlavi di un'altra cosa. Ma Richard Boraccio, ma sai che vuol dire tutti i giorni a sacco essere? Ma ho capito, ma che ma vuol che dire? Sa lei? Che ne sai tu? Mio, ma tu facci tu con essere tutti i giorni una settimana, poi mi racconti, gli fai una faccia come un pallone. Ma lo vedi che tu sei, in realtà tu sei abituato a picchiare le donne, questa è la realtà dei fatti. Ma certe volte quanti cazzotti in testa di verità, però vabbè, ma poi li prendo pure, Ma che prendi, dai. Anime, questo dice in segreto che mi meni, vabbè. Ma dove, che mena, sì, dai, tu sarai più forte a menare, no? Ma sarai più forte, non entriamo nei dettagli, che mica sono tutti gli uomini grandi e donne piccole, sono quelle donne forti. Ma che rapporto avete voi due, da quanto siete sposati? 10 anni. Da 10 anni. Tradimenti? Tradimenti, dice tradimenti, che dobbiamo dire? Non lo conosco. Ma che bella coppia, ma che bello spaccato. Ma perché hai chiamato però? Non hai chiamato questo? No, io sto parlando... tu adesso mi hai tirato sto spaghetto di una stupidaggine, ma non è questa la cosa importante. La cosa importante è un'altra, il discorso dei vaccini. No? E allora che hai fatto sui vaccini? Dice Nene, sì, abbiamo la bambina, ecco, ce l'abbiamo qua, non è che ti dico stupidaggine. C'è la bambina? La facciamo vaccinare, no? Sì. Anche è pericoloso, dottore. No, assolutamente, state tranquilli, non c'è problema. Ma sono un sacco di vaccini a sta bambina tutti insieme. No, non si preoccupi, non c'è problema. E allora? Vabbè, abbiamo portato sta bambina a vaccinarsi. E la bambina a un certo punto, guarda, 3-4 giorni si è spenta. Che vuol dire si è spenta? Si è spenta come una lampadina, cioè senti quando ti spegne la lampadina? E dunque? Dunque, sai qualche... Che vuol dire si è spenta? Spiegami, che condizioni è? Anna, che condizioni sei, papà? Mettersi una mano, ci sono pure fermati. Niente, guarda, la bambina praticamente, io non voglio utilizzare questa parola, però diciamo non l'autorizzano nemmeno loro, perché quando tu vai da un medico e gli poni il problema, ti dicono no, qui non siamo talebani, insomma questa parola non si può dire. Cosa? Quale? Autismo. Quale? Non c'è nessuna parola. Aspetta un attimo, no, io voglio dire una cosa. Sì, sì. In questo momento quanti anni ha tua figlia? 3 anni e mezzo circa. Ecco, che tipo di diagnosi hanno fatto? Beh, adesso sta praticamente, sai, in Italia i centri sono 3. Tu quando hai un problema di questo tipo, dopo averla vaccinata, tutti scappano come conigli, perché non si sa a chi santo rivolgersi. Questo è il problema. Non è che sto dicendo che il vaccino fa male, perché sono stato il primo che l'ha fatto. E allora? Quindi però non scusa, si... con tutta... io dice, dove la portiamo? Cioè, ti dico nomi e cognomi, perché non è che ti dico cioè, quando tu mi dici si è spenta, che cosa vuol dire? Cioè che è un vegetale? L'abbiamo portata all'ospedale Meyer di Firenze. Sì, ma è un vegetale, che cos'è tuo figlio? Allora, tu quando hai un problema di questo non tipo, parla, non spiegami te. Allora, si è totalmente spenta, cioè non comunica, guarda nel vuoto, si picchia da sola, grida, piange di continuo. L'autismo, hai capito? Però questo autismo è insorto in maniera improvvisa. Tu dici non c'è nessuna correlazione, ma in nessuna patologia c'è una correlazione, perché alcune cose sono correlabili, altre purtroppo sì. Però ti voglio segnalare che per carità, io ho grande dimmelo tu, io ci ma vado, io non lo so, ma amico mio, io posso informarmi, certo, naturalmente, per carità, ma come ti puoi informare te? Sarai sicuramente più informato te. Esatto, sei più informato te, se ti posso dare una mano te la do volentieri. Il punto fondamentale però un altro. Dimmi. Che ti posso assicurare che fino adesso la correlazione che tu vedi, che tu pensi di aver fatto, non è stata provata. Adesso magari sarà un grande complotto, sarà una grande trama, eccetera. Ma non è stata provata. Secondo altri invece sì. Se tu stai a sentire, il senatore Bartolomeo Pepe, persino il senatore D'Anna e altre persone. Io sono entrato in un mondo, ovviamente non sono da solo. Ci sono tanti altri papà, tante altre mamme che hanno lo stesso tipo di problema, perché io pensavo di essere l'unico scemo del villaggio, ma quando mi sono rivolto al mio centro di neuropsichiatria infantile, è stata la prima cosa che abbiamo fatto, e cavolo, ho trovato tutti i bambini con tutti gli stessi sintomi, tutti uguali. Dice vabbè, ce l'hanno tutti. Ho capito, però la relazione tra i vaccini e l'autismo non è stata provata da nessuna comunità scientifica riconosciuta. Aspetta, calma con queste, perché io sono del campo, quindi vabbè, allora so che cosa è una, ma tu perché hai chiamato, però spiegami. Ti sto dicendo semplicemente che su grandi numeri hai ragione tu. Su grandi numeri hai ragione tu. No, ma spiegami perché, numeri, perché hai chiamato? Per farmi sapere cosa? Per che dirti, è giusto ribellarsi a questa cosa qua? Ti sto dicendo che imporre a una popolazione sana una botta di vaccini come questa a dei bambini sani, siccome c'è una farmacogenomica, una farmacodinamica, farmacocinetica. Dunque? Cioè voglio dire che se mi fa la male la testa e mi prendo l'aspirina, magari a me mi passa, a te non te passa. Quindi sto dicendo che obbligare per legge, perché noi abbiamo un obbligo per legge, dunque, a tutti i bambini che stanno in benissimo, in grazia di Dio, fargli questi vaccini a qualcuno che ovviamente oggi noi non, allora, non abbiamo. Che cos'è? Un crimine? Che cos'è? Un crimine? Ma per farlo obbligatoriamente che cos'è? Non è corretto. Se potessi tornare indietro, non è corretto rispetto a quello che ho sentito, è poco. Grazie, ti abbraccio. Saluti. Ciao, ciao, ciao. Si è fatto vivo il signor Mauro da Mantova, non ha chiamato, proprio tutti li proponiamo stasera. Però è in un periodo in cui racconta alcuni episodi della sua vita, signor Mauro da Mantova. Beh, caspita, dopo le memorie di Adriano della Jörsener, certo ci sono quelle di Mauro da Mantova. Senti, ti prego, memorie di Mauro. Eccoci qua. ero qui in un locale sul laghetto di Mantova, il lago superiore, che questo locale si chiama La Zanzara. E allora stavo per prendere il sole, arriva una signora di 50 anni, una bella signora bionda, con gli occhi chiari, mi fa: possiamo fare una foto con lei? Vabbè, fa: perché sa, c'è la ragazza qui che ha appena avuto la laurea, stiamo festeggiando, fa: lei deve dare il bacio alla laureata. Sì, sì, anche una bella ragazza. Ho detto: lei è laureata? Stavo pensando, gli ho detto: un somaro che fa radio, un certo Parenzo che fa radio, si spaccia per dottore e invece non è nemmeno laureato, sto somaro. E non mi è venuto in mente quel coglione che è bianco, che sfigato. Pensa, Parenzo, coglione, pezzo di merda. Io ho dovuto fare una foto e baciare sulla guancia una bella donzella di 22-23 anni, bionda, carina e femmina, che me la sarei fatta sul tavolo della spiaggetta. Che invece coglione, che seppure ebreo e frocio, invece non si è nemmeno laureato. Somaro, vai a fare in culo, coglione, strangolati, che tu nella vita non servi un cazzo, solo a far incazzare la gente, imbecille, somaro. Io voglio capire, ma perché è così ossessionato? Difamazioni continue, ma non importa, ma perché ci vediamo in tribunale. L'unica cosa che voglio no, ma senti, dire, senti, questo senti il WhatsApp di questo ascoltatore, ti prego. Sentiamo, senti. A questo punto mi sembra evidente che Mauro da Mantova è innamorato di Giuseppe Cruciani e geloso di David Parenzo. Cioè, non riesco a spiegarmi in altro modo la carica di aggressività che ha verso Parenzo, così focalizzata poi sugli attributi sessuali. Cioè, lui pensa al pisello di Parenzo e non c'è cazzo da dire, è invidioso, ragazzi, è invidioso e geloso. Boh, attenzione, perché da queste cose poi succedono robe che, boh, io avrei bisogno di prevenire in qualche modo. Poi fate un po' voi, ciao. Allora, il vostro programma, tra parolacce, cazzo, vaffanculo, innanzitutto è di basso livello. La radio la fai tu, sei tu il fenomeno. Ti voglio un fenomeno. Fenomeno. Ti voglio un fenomeno. Fenomeno, io non ho capito una cosa, ma che c'è? Fenomeno sarai tu che guadagnerai 3-4 mila euro al mese, non io. Siete dei volgari e ignoranti. Questo è arrivato lui, Ivan. Non è sbagliato. È arrivato il censore, Ivan. Frate, fammi fare il fenomeno. Fenomeno. Fenomeno. Vergognatevi! Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Brutti bastardi, adesso mi toccherà assumere del metadone per sopperire alla vostra mancanza per le vacanze estive, brutti figli di puttana. Sono anni, cara, anni di zanzara, macchina o motorino, poi piscerò nel lavandino e non saprò mai se squirterai. Mi state facendo soffrire stasera, capito? Davide, nei giorni scorsi aspetta, perché volevo segnalarti questo. La mia Filippina adesso compone anche canzoni, sì. E ha scritto questo meraviglioso stornello sulle note di Mi fa volare. Molto divertente, un assaggio. A milioni di euro mi paga per la volale. Mi fa stilale, mi fa stilale. Mi se la piglia zanzala su WhatsApp o cellulare. Sempre a chiamale, sempre a chiamale, questa grande convinzione che zanzala può culare. Li fa chiamale, li fa chiamale, quando sto stilando e Mauro da Mantova interviene. Dottore Oscile, tutto lo scile pelò, sti miserabili che chiamano. Pelò, pelò. Io ti giuro mai li capilò. Tutto il palenzo, devo servire le sue camicie, mi fa stilare. E poi il prosecco, devo comprare tutta la sera a cucinare. Lorenzo, quando vuoi. Sì, lo so. Ma chi c'è? Elena da Roma, per caso? Anzi, Elena da Milano? Elena, la tua presunta madre. Ma chi è? David. Sì, quella che ti... Quella che ti ha cercato. Ma chi è? Io non conosco. Quella che ti ha cercato. Ti ha cercato alla 7 e non ti sei fatto trovare. Elena. Ah, no, beh, non c'ero quel giorno. Ero impegnato. Signora, buonasera. Non ci avevo mai incrociati. Buonasera. No, infatti non ci siamo mai incontrati. Io per Pizza sono praticamente sotto Radio 24. Sì, ma non si sente un cazzo. Mario da Roma, dai. Mario, forza, ragazzi. Mario. Sì, sì, sì. Dimmi, dimmi, Mario, dimmi. A Crucia, senti un po', ma quando dite le cose, no? Ma voi parlate tanto per... parlate per cognizione di causa che ci avete fatti. Avete detto, no? Di cosa stai parlando? Spiegami. Non l'ho detto io. Non l'ho detto io, amico mio. E l'hai riportato, però. Non l'ho detto. L'ha detto il tuo ex capo. Il tuo ex capo. Se tu sei un dipendente. Io qua ci ho scritto dipendente ATAC. Infatti l'hanno cacciato, ma l'hanno cacciato perché è uno che per la prima volta dice le cose come stanno. Perché dice non le cose. Vero. Ah, non è vero. Dunque... ma ci vuoi venire un giorno tu con me a fare un turno? Sì, ma non è che ha detto. Ma non è che non è che ha detto che tutti quanti lavorano tre ore. Cioè, non ha detto questo. Gli autisti. Ha detto che tra gli autisti c'è un numero piuttosto alto di persone che in media. Non è assolutamente amico vero. Mio, ma allora querelatelo, portatelo in tribunale, fateglielo un culo. Fateglielo un culo. Un'altra, e voi continuate a dire l'assentismo. Ma quale assentismo? Ma l'ha detto lui, non voi, il vostro capo, il vostro ex capo che hanno fatto fuori oggi, che anzi che si è dimesso oggi perché non lo vogliono più. Cioè, dai. Da quello ha presentato dei dati che mi sembrano ineccepibili. Ha detto che l'azienda quindi, è in dissesto. Pure dell'altro, dici tanto, l'ha detto lui, mica l'ho detto io. Beh, ma certo. Beh, che motivo avrebbe per dire il contrario, scusi. Scusa, ma non è che l'ha detto un passante, non l'ha detto un passante. Tocca prima formarsi prima. Ma non l'ha detto un passante, amico mio, non l'ha detto Pinco Pallo. Non l'ha detto un passante. L'ha detto uno che ha controllato i vostri dati, che ha detto che c'è scarsa produttività. È Gesù Cristo intera quello, no? Sì, quindi non sarà anche Gesù... quello potrà dire delle cose false, infatti è stato mandato via. Ma non credo che sia per quello, ha detto semplicemente che i conti stanno messi molto male, che state per fallire, che bisognerebbe portare i libri in tribunale, che siete sul baratro e che i dipendenti fanno gli assenteisti, non, sì, non ha detto che lo stipendio, ragazzi, è legato alla presenza. Ragazzi, diciamoci la verità, non c'è una persona a Roma che non lo pensa. Solo voi non lo pensate, non c'è una persona a Roma che non lo pensa. Magari perché saranno esagerati. Come funziona il lavoro. Non lo so, ma è così, non c'è una persona a Roma che non la pensa come quel signore là che oggi è andato via, l'hanno mandato via, quello che non la pensa come lui. Non c'è una persona che non lo pensa, che non pensa queste cose. Mi dispiace, adesso tu quindi dirai, dovrebbe no? passare il messaggio che l'autista dell'ATAC. Ma non deve passare nessun messaggio. Messaggio. L'autista, non autista, eccetera. La realtà è che l'azienda va male, i conti sono allo sfascio e che voi e che i dipendenti sono mala gestione. E i dipendenti sono anche assenteisti, questo è il punto. Non è vero. D'accordo. Allora sono tutti, tutti impiegati allora. Modello, sono tutti impiegati modello. Ma io non parlo di siete impiegati. Siete il top. Abbiamo visto siete come le aziende di Ginevra, di Zurigo, uguale. Sì. Siete... Sì, un cazzo, dai, su, dai. Ma io non parlo di... Ciao, Mario, vattene a fanculo. Ma tu vattene a fanculo, va, ciao. Allora, Mirko da Bergamo, vai Mirko. Un saluto alla corte, siamo un mito alla corte. Niente, vado veloce. Allora, due cose. Un messaggio al grandissimo Papa Bergoglio, al suo grandissimo emerito Ratzinger, che ora è nella vicenda di quella brutta vicenda delle bambine. Non c'è nessuna brutta vicenda. Ratzinger non è nessuna brutta vicenda. Vabbè, Mirko, cosa vuoi da noi? Scusate. Cosa vuoi da noi? Dimmi. No, niente, voglio dire una cosa a tutti questi prelati, monsignori, suore, consorelle, che dalla mattina alla sera non fanno niente anziché pregare il Signore. Adesso chi l'ha detto? Quello pregheranno adesso, a meno questo lo fa. Fare niente tutto il giorno. Fare niente tutto il giorno. Perché dice così? No, perché per loro sta finendo tutto. Tra poco questa gente andrà a lavorare veramente. Perché? Perché l'Africa sta venendo in Italia. E allora? Sta venendo in Italia. E dunque? E quindi l'Africa allora questa gente che prega il Signore, prega il bene, sarà costretta ad aprire le migliaia di chiese, come si chiama, conventi, monasteri, ed aiutare i bisognosi, i poveri, anziché pregare dalla mattina alla sera, oppure come qualche suore che va a cantare. Io sai che non ho capito bene quello che dice. Non ho capito nulla, cioè non ho capito niente. No, io sto dicendo che a questi signori che predicano il bene, il Signore, fate del bene, no? Sì. Monsignori. Tu vuoi dire che sta per finire il tempo? Perché? Sta finendo per tempo che tra poco inizieranno a lavorare. Ma sta veramente finendo il tuo di tempo, secondo me. Il mio di tempo. Cioè, la cosa drammatica è che sta finendo. No, oltre a quello, sta finendo anche il tuo tempo. Perché sta finendo drammaticamente il tuo cervello, questo è il punto. Il mio cervello, si sta consumando lentamente. Vabbè, questo è il punto. Lentamente, cosa. Sta andando in consunzione. In consunzione, si sta atrofizzando. Ma per quale motivo si sta sofficiando? Perché è evidente che sei un imbecille. Perché è evidente. Voglio dare un avvertimento ai signori della Chiesa. Il vostro tempo. Ma che avvertimento vuoi dare? Ma chi sei? Cristo II che chiamava una volta? Una volta chiamava uno che si chiamava Cristo II. Te lo ricordi, Parenzo? Cristo II. Io sto dicendo che questa gente qua, anziché pregare dalla mattina alla sera, tra poco andrà nelle varie stazioni di tutte le città ad aiutare questi bisognosi, questi poveri che hanno davvero bisogno, anziché pregare nel loro convento, nei loro monasteri. Le due cose si possono fare insieme. Ciao, l'ultima Mirko. Cosa. No, non c'è ultima cosa, l'ultima cosa l'ho già detta. Ciao, un saluto. Saluto la corte. Ciao. Elena Firenze, vai Elena, dimmi. Sì, ciao. Ciao Elena, dimmi. Allora, prima di tutto sono vegetariana dalla nascita. Che sei vegetariana dalla nascita dalla e non nascita, vaccinata, sì. Non vaccinata. Poi? Vegana da 17 anni e fruttariana da un anno e mezzo. Cioè, ce l'hai tutto, ce l'hai. Ce l'hai tutto. Piena di energia. Cioè, ti manca solo, non so, di essere non so che cosa. Cioè, sei anche lesbica, no? Ma che perché diamo? No, bene. Non sono lesbica, però. Va benissimo essere lesbica, però sei anche. Senti, ho fatto il più grande errore della mia vita, forse, questo mese. Ho deciso di partecipare a un digiuno, un ritiro respirariano di Nicola Spillars. No, però scusami, amica mia, tu sei vegetariana. Sì, eri vegetariana. Poi a un certo punto che hai fatto sei diventata? Sono diventata vegana. Vegana da 17 anni. Da 17 anni sei vegana. Sì. E adesso hai deciso di partecipare a un raduno respirariano. Ma perché? Dici, ma perché non è un cazzo da fare? Partecipi. Io ti invidio. Non lo so, le persone che fanno queste cose, io le invidio, Parenzo, perché uno che le curerei, ha il tempo di partecipare a un raduno respirariano. Sì, capito? Fare qualunque, c'è uno che sta qua a fare la radio, cioè questa fa i raduni respirariani. Va bene, ma questa. Io ho sbagliato e ho chiamato per rimediare, per salvare delle persone. No, ma perché? Che è successo a questo raduno respirariano? Guarda, se ti racconto non ci credi. Cioè? Allora, eravamo in 40. 40 a fare ognuno raduno. Pagava 600 euro per respirare. Settimane. Per respirare. Per respirare senza bagni. Come senza condizioni bagni? Igieniche scarse, mosche. No, scusami, tu hai pagato 600 euro a settimana? No, 600 euro 3 settimane. 600, vabbè, già è meglio. 600 euro 3 settimane per stare in che posto? Scusa, per stare in una casa colonica disfatta, senza bagni. Se le piace così, amica mia, ma che me ne frega? Ma è bellissimo, ma sono fattacci suoi. Ma e allora? Che non me ne frega allora, proprio dopo, niente di sta roba. Dopo 10 giorni, all'inizio una signora si è fatta male a un ginocchio, pure. Curata malissimo, non curata, finita all'ospedale, è andata via e finita all'ospedale, sì, tuttora in ospedale. Una signora, una di queste che faceva il raduno respirariano. Una signora di 72-74 anni. Cioè una a 72 anni fa il raduno respirariano. E vogliamo ricordare che i respirariani sono quelli che pensano che si può anche vivere solo respirando senza mangiare, penso, capito? Cioè, questo è il punto. Ricordiamo. Ma lì che, digiuni. Sì, ma lì che si faceva? Non si digiunava? Però. Si digiunava lì, in questo posto? Digiunavamo, bevevamo acqua, però non eravamo se vi piace così, ma me cosa me ne frega? Tu vai al Baglioni, ma al Baglione a mangiare, ma cioè tu me ne frega niente. Allora spiegami, non ho capito. Tu allora, a Milano, in via Senato, al Baglioni, non me ne frega niente di sta gente qua. Allora dimmi, che è successo? Quindi questa è andata. La cosa è andata, che vuol dire? Cioè, è andata via, è andata all'ospedale. No, e te credo. Ferita, e voi continuate a fare queste cose ancora? Poi? 3 giorni fa è morta una persona davanti a me. Qui è grave, non ho capito. Sì, è morta una persona. Qui ci si fa seri. Qui si passa da Richard Benson che picchia Esther. Ma una puntata tragica questa, vedi che bisogna chiudere. Scusami, ma tu sei andata a un raduno respirariano organizzato da chi? Nicholas Pillars. Ma di questo Nicholas Pillars, però il nome non mi è nuovo, che mi sembra uno di quelli che è un... È abbastanza, è l'unico in Italia che sì, è un cioè, grande... è l'unico, è rimasto solo lui, superstite praticamente, un altro all'ospedale, l'altro è morto, adesso non voglio ridere, sì, però ragazzi... Lui si spaccia per pranico, ma è onnivoro, praticamente una volta a settimana si mangia... Cioè quello tutto. Magna tutto, e sì, fa respirare tutto. Voi e voi pagate, fa ma respirare. Siete dei deficienti, sì, sì. E quello lì è un genio però, sì. Scusatemi se io ve lo dico. No, però cara Elena, allora, la questione è molto grave però... Cioè, nel senso, tu hai visto morire una persona davanti a te? Ho visto morire una persona, sono stata con questa persona finché moriste, siamo venuti insieme a Milano. Ma tu mi stai pigliando per il culo? Vero. No, non ci sto prendendo per il culo. Cioè, tu mi stai dicendo che a un raduno respirariano... Sono tornata ieri sera da Milano, guarda. A un raduno respirariano organizzato dal signor Pillars, che uno mi sembra intervistato pure su giornali italiani, questo signor Pillars. Se non anche da te. Sì, anche da me, credo, anche da me. Ci mancherebbe altro, se noi sei matti, noi voevo, come dicono in Veneto. E allora che è successo? Praticamente è morta una persona davanti a te. Ma come è morta? Che è donna o uomo? È morta, ha avuto dei problemi cardiaci. E allora? Non so, non è stato controllato durante il processo, ma come nessuno veniva controllato. E come è morto? Davanti a te così sul... È morto, ha avuto un abbassamento di battiti, è svenuto e il tempo che è arrivata l'ambulanza e non ce l'hanno fatta rianimarlo. E poi avete chiuso baracca e burattini per essere andati? No, sono rimasti tutti tranquillamente lì, io sono l'unica che sono venuta via. Ma io non ho capito, ma questo qua sono dei ma sono dei criminali questi qua. Ma che cazzo vai? Ma i parenti di questa persona morta non hanno fatto niente, scusi, non ho capito. Ma che era questo, italiano o francese? Questo era italiano. Cioè un italiano morto, un raduno respirariano. E nessuno dice niente. Sostanzialmente perché non respira, cioè non respirava, non mangiava. Problemi cardiaci, non è stato controllato, ma e poi lì non avevano né. Ma quanti anni aveva questo qua? Non gli è stato fatto né un pronto soccorso né un. Quanti anni aveva questo? Aveva 65 anni, era molto in forma. Ma uno che cazzo va a fare raduni respirariani a 65? Uno va a Troia a 65 anni. Va a puttane. Ci sono delle vie di uno a 65 anni va a Troia, a puttane. Si va a divertire, stai in montagna con la moglie, ecco, fai il cazzo del comodo. Sono mai i raduni respirariani di un signore che si chiama Pillars in Francia a pagare 600 euro per 2 settimane in mezzo alla merda e in un posto assurdo. Mancano in una casa colonica. Dai, no. Alla chiusura no, 57. Della Claire. Un coglione, no, però scusa Elena, stai dicendo una cosa molto grave. Cioè, è morta una persona, un italiano. Ma chi era là? La moglie? Chi c'era là? C'era anche la moglie. Sì. E la moglie che ha fatto? Niente, perché è rimasta là. Ha preso atto e è rimasta del là. Cervello. No, è andata via. Sono andata cioè, via in che senso lei. Ti fanno il lavaggio del cervello? Ci dicono che tutto come deve andare, che cioè, è morto, morire lì, queste cose qui. Insomma, cioè, che non è cioè, stato soccorso. Che è il destino, esatto, sì. Ma secondo te questo qua è morto? Franico, queste cose qui. Ma non ho capito perché. Che ha detto questo? Che ha detto Pillars? Scusa. Ah, Pillars il giorno dopo, sotto domanda di una che faceva il corso, gli ha chiesto come stava e lui gli ha detto: mai stato meglio. Testuali parole. Vabbè, ragazzi, e lì ho deciso di andare via. Perché... Ma ragazzi, ma questi qua vanno arrestati. Cioè, muore la gente. Cioè, muore la gente ai raduni respirariani. Ma come cazzo si fa a digiunare così? Cioè, ma è incredibile. Vabbè, Elena, poi lui 24.000 euro. Ma come si chiama questo qua? Nicholas Pillars. No, questo lo so, ma lui, quello che è morto, come si chiama? No, per rispetto alla famiglia non... No, il nome di battesimo. No, preferisco non dirlo per rispetto ma alla di battesimo, famiglia. Nome di battesimo. Preferisco non dirlo, scusami. Vabbè, ciao. Ciao, grazie. Ciao. Allora, ragazzi, qui c'è una questione molto importante invece, manca ancora un po', caro David. La questione importante è questa: in un paese che noi conosciamo, in una città, in una cittadina, hanno pizzicato un altro vecchio a 81 anni che è andato a prostitute. Pure. 500 euro di multa. 500 poco euro di multa. 500 poco. Euro di multa. Sono specializzati nel beccare in quella città, nel beccare i vecchietti. Ora io mi domando, ragazzi, lasciateli in pace questi qua. Lasciateli in pace. Hanno 81 anni, si vanno a fare una scopata a 81 anni, hanno la forza di farsi una trombata a 81 anni, 500 euro di multa, mi sembra esagerato, francamente. Com'è che si chiama sto posto? Masserano. Va bene, Elena da Milano, siamo riusciti a ricontattarla? L'amante. Non è colpa mia se nel Sole 24 Ore non prende il telefono. Sì, hai ragione, purtroppo abbiamo pure questo problema. Diamine, comunque allora, io sono qua giù sotto dal sole. Vabbè, ma qui Parenzo non c'entra niente, Parenzo è a Roma, per cui non... appunto io per protesta, dato che comunque Parenzo mi ha deluso profondamente, volevo ufficialmente dire che passerò la minoranza rumorosa, perché io la maggioranza silenziosa... Io semplicemente non posso prendere degli appuntamenti, no, lei, così mi ha, lei Parenzo mi ha illuso, cioè lei mi ha detto le cavigliere, quest'altro... Ma io non ho illuso nessuno, ho detto semplicemente che le cavigliere sono, come le scarpe ballerine, quelle basse, sono ecco, un grande sulle elemento... Sulle ballerine avrei da ridire, ma vabbè. Ma cioè, comunque detto, è venuta da te alla 7 con una cavigliera, cioè due cavigliere. Io ho detto ottime le cavigliere, ottime, no, le ballerine detto, in generale, beh, sulle signore. Ma dagli del tu che lei, ma no, no, non la conosco, do del lei alla signora, scusa. No, perché Parenzo disse, se nel caso in cui, qualora vi fossero le cavigliere, la musica cambia. Questa beh, è la detto, citazione. Insomma, in generale, cavigliere. Ma io voglio dire una cosa, tu vuoi essere schierata da Parenzo o no? Cioè, ma cosa assolutamente dite? Sì, dopo i fiori e quant'altro, sì, c'è diamine. Cioè, capito? Cioè, dopo fiore, una cena, che vuoi? Un teatro, una cena, teatro, un cinema? Un teatro, ma non funziona, no, così, però, che tutto, le cose devono, come dire, no? Devono carburarsi. Devono avere la loro chimica. Effettivamente sei un po' aggressiva, Elena. Si può fare così. Certo, mi tocca passare la minoranza rumorosa, che almeno, cioè, essendo schietti, si va diretti al punto. Parenzo, cioè, appunto, quelli sono dei maiali. No, ma ti assicuro che con me non c'è con me il problema del cinema, di queste cose qua, non c'è. Cioè, per me non c'è. Infatti, mi toccherà, cioè, devo essere stata illusa da Parenzo, mi toccherà passare lì. Cioè, ma adesso però devi perseverare. Io ti consiglio di perseverare un attimo. Sono 2 mesi che perseguo, cioè 2 ore aspettarlo. Cioè. No, è stata a Roma 2 ore ad aspettarti sotto la sedia della sera. Capito, ma io ero all'interno della sedia, non è che può entrare e chiunque. Ma che discorsi, ma chi fate? No, può entrare chiunque, perché c'erano Civati, Speranza, che entravano come se nulla fosse. Se entrano Civati, scusa, se entra fosse. Dai, se entrano Civati e Speranza, può entrare Elena da Roma. Dai, su. Ma ho capito, mi dispiace per la signora, signorina, non lo so adesso io, però. Però io sono rimasta profondamente io però, io però ti come consiglio di mi risulta che ha lasciato una bottiglia straordinaria, sì, peraltro di prosecco buono di Treviso, peraltro, ecco. La sera che ho ospitato a cena a casa mia il signor Barbera, Alessandro Barbera, grande giornalista della Stampa, sono vabbè, so, allora? Non voleva si sapesse che è venuto, allora tanto lo dico, abbiamo aperto questa bottiglia ottima di prosecco, cioè, che effettivamente qualcuno ha lasciato, l'abbiate brindato almeno alla mia, perché cioè, ma io non sapevo fosse suo, mi hanno detto dei ragazzi, sono venuti. Comunque lo sai che sei veramente una vergogna. E hanno lasciato per lei questa bottiglia. No, ma sei veramente Parenzo. No, ma sei veramente una vergogna. Sei veramente firmato. Sei veramente una vergogna. Ciao, ciao, ciao Elena, ciao, ciao. Ciao. Saluti cari. Stai zitto, ciucciacazzi. Simone dalla provincia di Brescia, vai. Vedi, scrive intanto Giovanni che viene in casa. Allora, ah, che bello, Parenzo, quanto mi diverte Parenzo, Giuseppe quando Parenzo è in calza. Vai. Ciao vai, Parenzo, sì. Parenzo. Vabbè. Dimmi, a te Simone. Parenzo devono dare il Nobel. Sì, io perché? Guarda, concordo con te che questa è una trasmissione di merda. Da chiudere. Concordo pienamente. No, merda, da chiudere, basta. Da chiudere. Pochi minuti ancora so di sofferenza. Faccia, io non so, ti assicuro che ti do la mia massima solidarietà. Lo so. Io non so, so come so. Tu faccia. Adesso chiudiamo. Hai tutta la mia solidarietà. Ti ringrazio, caro. Siete in tanti. Fasci. Bifolchi. No, ma usiamo un termine fasci. Generico. Bifolchi, che è più bello. Qualsiasi tipo di persona. Miserabile, ma anche bifolchi, è bellissima la parola bifolchi. Incominciamo a introdurla, bifolchi. Sì, tutti ti chiamano e poi quando cominciano a parlare cominciano a dire io non ci parlo con quello. È una situazione che è di una miseria assoluta. Miseria, bravo, bravissimo, io, miseria con assoluta. Quello che sta lì alla tua destra, per una volta ti chiama uno che ti dice con quello lì che sta alla tua destra, a sinistra, non so dove sta, non ci parlo, non voglio neanche parlare. Ma tu sei un imbecille, sei un poveraccio. Io sono la maggioranza. Ma tu sei un cretino, tu sei semplicemente un cretino. La mia gioia è nel sentire sfanculati da Parenzo. Sì. tutti quei personaggi che chiamano, che hanno sempre delle idee, delle grandi idee brillanti, no? Solitamente partono con Napalm sui Rom, la prima, diciamo, idea geniale, no? Ecco, poi è arrivato lui. Napalm sugli immigrati, no? La seconda, poi vanno avanti, no? Perché sono dei grandi pensatori, arrivano con le ruspe, no? Perché vabbè, Simone, allora? Degli, allora? Ma fatto sta che la baracca. Posso parlare con te? Poi sì, solo con me parli, cara. Sì, voglio parlare solo con ma la baracca, te, qui, la, quella baracca la porto avanti io. Qua. Sì. No, tu non hai capito. Non hai capito ancora che la baracca la porto avanti io. Non hai capito ancora. Sì, ma tu puoi parlare con Parenzo tranquillamente. Ma sei costretto a parlare anche con me. Cioè, mi dispiace per te. Allora dimmi cosa vuoi, dimmi cosa vuoi. La trasmissione è quella sulla gestione dei tardanelli, sì. Il piscio se si fa nella doccia. Assolutamente sì, ne sono orgoglioso. La grande, per cui questa ne sono orgoglioso, Parenzo, ne sono orgoglioso. Io abito alla Zisa, sul lago di Garda. Sì. Parenzo, questa sera finalmente ti liberi di questa trasmissione, ce ne liberiamo insieme. Da domani sei il mio ospite, poi venire qua, ci facciamo due risate, facciamo una cena, non con le bottiglie di plastica, con le bicchieri di plastica, poi, con le robe lì. Poi ragioniamo un po', tovaglie in fiamme. Scusami, amico mio, sai come mi libero di te? Semplicemente ti scorreggio in faccia, capito? Ti scorreggio in faccia. Parlo direttamente con Parenzo, che è la trave di questo programma. Ma sì, ma allora, appunto, sì, ma certamente hai ragione, ti do ragione. È una grande liberazione per entrambi. Ti auguro una bellissima estate. Grazie. Ciao, cretino, ciao. Allora ragazzi, è stato arrestato. Ben in casa continua a scrivere che c'è niente da fare tutto il giorno. È stato arrestato il, come sapete, quello che ha piccato il rogo sul Vesuvio, no? Un tizio di non so quanti anni, ma stai tranquillo. Leonardo, quanto va avanti stasera? Tizio, ma che roba è? Un incubo che non finisce più. Ma un tizio, Leonardo Orsino, di 24 anni, che è stato arrestato questa mattina a Torre del Greco. Questo qua fa il macellaio. Ora, secondo te, qual è il collegamento che ha fatto una nazi vegana come Daniela Martani? Secondo te, che collegamento ha fatto? Spiegami. L'uomo che ha appiccato il fuoco sul Vesuvio è un macellaio. Sì, è un carnivoro. Chi disprezza la vita degli animali disprezza ogni cosa. Cioè, tu capisci, no? Questo cioè, è, tu capisci. Martin, sì. È l'epitaffio di quest'anno è questa roba qua. Mi ragazzi. Scrive anche la Filippina: chiudete Calavanze e l'allio. Ha scritto: chiudete Calavanze e l'allio. Allora, ragazzi, siamo ai titoli di coda. Dobbiamo ringraziare chi? Chi dobbiamo ringraziare? Dobbiamo ringraziare innanzitutto il dottor Lacorte, il compagno Riccardo Paoli, dobbiamo ringraziare il compagno Andro Mercù che finalmente ha capito la sua vera inclinazione, cioè l'omosessualità, e avrà un nuovo compagno. Non è vero. Io verissimo, intanto abbiamo detto chi se ne frega. Poi, e siamo felici per lui. Signor Longoni. Alessandro Longoni. Non c'è nessuno che ha fatto. Marchesi che ha fatto un bambino, che ha sfornato un bambino. Ma non è tuo. Siamo sicuri lì? Sì, siamo sicuri? Sì, neanche di Barisoni, vero? Signor Lacorte Pietro. Signor Lacorte Pietro, criminale, che per fortuna è stato già arrestato, infatti oggi non c'è. Signor Ramelli, signor Ramelli Matteo. Ottimo Ramelli. Ramelli è persona silenziosa ma molto bravo. Bravo Ramelli. Ottimo Ramelli. È silenziosa quando parla, però. Ma Ramelli è parente del terrorista Ramelli, quello che era. Vabbè, non lo sappiamo. Va bene ragazzi, chi c'è qua? Chi c'è? C'è più nessuno, amico mio! Si chiude la classe! No, le centraliste! Libertà, è il nostro 25 aprile oggi! Allora, scusa, Nicole Santini, Silvia Camisasca, come si chiama? Camisasca, scusatemi, ogni tanto mi scordo i nomi, Il centralino, insomma, Parenzo, è la nostra vita perché raccolgono le telefonate di tutti i miserabili che poi ti attaccano, capito? Certo, dunque devi ringraziare. Ringrazia le maestranze, tu che sei di sinistra, ringrazia! Grazie alle ragazze che al centralino ogni giorno raccontano e raccolgono centinaia di chiamate di questi miserabili che non hanno niente da fare se non telefonare. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ciao. Non vi dico niente, ciao. Ciao Ricchione, io sono veramente disgustato da quello che conducete, è una radio veramente seria della Confindustria che dà molte informazioni. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, alle 8, ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi, quando sono al castello di Carisio voglio ridere.